Dagli studi fuori norma di Italian Podcast Network, con le avveniristiche attrezzature scartate dal terzo mondo, condotto da un coraggioso manipolo di brutta gente e col fondamentale patrocinio di Morgan, va ora in onda Dietrologia Videoludica. Bene, salve a tutti e iniziamo con i riferimenti per questa trasmissione. Potete trovarci al nostro solito sito www.dietrologiavideoludica.it, alla pagina Facebook cercando Dietrologia Videoludica, oppure su Twitter cercando Dietrologia Videoludo. La nostra posta elettronica è dietrologiavideoludica@gmail.com. In questo episodio avremo Luigi Marrone, spettatore silente, Marco Gualdi, detto il distruggitore, e Peppe Saso. Adesso inizia la trasmissione. In Dietrologia Videoludica torniamo a parlare, non di Mass Effect, assolutamente, però torniamo a parlare di qualcosa che gli si avvicina, insomma, no? Lo sfiora quasi, se non altro voglio dire è perché parliamo di un altro prodotto che è frutto della BioWare, ma per un motivo ben preciso. Però prima di entrare, insomma, nel vivo e cominciare poi a sviscerare un po' tutta quanta la questione, ce la facciamo spiegare da Stefano, che però ovviamente, come gli altri episodi, come tradizione, deve fare il suo compitino, che è quello di leggere l'incipit dell'episodio. Vediamo questa volta il nostro amico Stefano Biggio, anche detto Big Joe, come se la cava e che voti prenderà. Allora, Stefano, non mi fa fare una brutta figura, eh? Allora, io mi sono impegnato, questa volta l'ho letto svariate volte prima. Se non mi vengono dei raptus nella lingua, dovrebbe andare tutto bene. Vai. Allora, vediamo un po'. Nel novembre 2009, BioWare faceva uscire un gioco annunciato al mondo già nel lontano 2004, e il cui sviluppo ha subito scatenato milioni di fan per il fascino, lo spirito retro e ruolistico che prometteva. Un gioco dal forte impatto classico in termini di tipologia, un gioco alla Baldur's Gate nelle sue ambientazioni di tipo classico e tradizionale, che rievocava un'atmosfera alla Dungeons & Dragons. Dragon Age Origins, infatti, è arrivato sui nostri schermi come un fantasy dal sapore dark e con un alone molto sanguinolento e crudo, ma sono emerse luci e ombre dietro a questo potenziale capolavoro narrativo, soprattutto grandi dubbi, delusioni, unite alla frustrazione che è scaturita dalla rapida presentazione di DLC per lo più inutili, tra i quali si nascondevano due espansioni decenti. Per non parlare poi del seguito, uscito l'11 marzo del 2011, che ha lasciato tutti a bocca aperta per diverse ragioni che andremo a svelare. Dietrologia Videoludica torna in casa a BioWare ancora una volta per analizzare e svelare dubbi, perplessità e profonda criticità, oltre che i fatti e misfatti di questa produzione che è rimasta nel mezzo tra mito ed estrema delusione. Ok, allora iniziamo dall'ospite. Quante volte gli diamo? Saso. Guarda, il ragazzo si è impegnato, sicuramente può ancora migliorare, però un 8 gli do, no? Un 8 nostro, un 8 videoludico. Infatti siamo specificando questa cosa. È un 8 videoludico questo. No, quindi nella media, insomma. Quindi io non lo comprerei. No, infatti. Lo aspetto, ascolti su Steam, dai. Luigi. Io mi sono riunito in consiglio col professor Saso e abbiamo convenuto assieme che un 8 era più che perfetto. Poi, grazie, prof. Marco? Ma anche io. Ho visto che ci hai spiegato un pochino su Dragon Age Origins, però lì è inglese, sti cazzi. Ora un passo successivo, insomma, l'italiano, però è andata eppure, bene. Ti devo dire la verità, che stavolta il più severo sono io, perché se lui non avesse detto che si era applicato tantissimo e l'aveva letto tante volte, gli avrei dato un 8 anche io. Invece lui ha detto che l'ha letto, non che l'ha capito. Quindi adesso stavo cercando di capirlo in diretta. Un 6, mi dispiace. È stato cattivo. Adesso è stato cattivo. Quindi, in buona sostanza, di che parliamo? Parliamo di Dragon Age Origins. Sì, di Mass Effect, esatto. No, parliamo di Dragon Age Origins, pregi e difetti, luci e ombre, quello che insomma è stato e sarà di questo gioco, soprattutto in vista del una possibile, o di una probabile, anzi, uscita di Dragon Age 3. In questo caso, quindi andiamo un po' a sviscerare quelle che sono le questioni che hanno portato alla creazione, allo sviluppo e al suo seguito del primo Dragon Age, del primo e del secondo Dragon Age in questo caso. Quindi, per quanto riguarda le origini, noi ci chiediamo, quando è stato dato l'annuncio di Dragon Age Origins, quali erano le vostre aspettative in questo caso? Quindi cosa avevate in mente, qual era il vostro livello di hype, tra virgolette, se ne avevate, oppure se era un titolo che vi sembrava uguale agli altri, vi siete ricreduti, o viceversa, vi sembrava diverso, avete giocato e è sempre la stessa solfa. Io propongo di iniziare dal buon Saso, se... Ok, va bene. Allora, io devo dire che da qua, dall'annuncio del 2004, per come l'hanno ovviamente presentato loro e per il fatto che, vabbè, in quel periodo ancora non ero proprio sul versante diciamo, dell'informazione videoludica, ero più appunto un giocatore normale, insomma, e provenendo anche da altri giochi BioWare, mi era stato presentato proprio testuali parole di uno dei cofondatori di BioWare, Ray Muzica, come il successore spirituale di Baldur's Gate. Quindi possiamo dire che, insomma, al primo annuncio, cioè veramente, ero rimasto a bocca aperta. Ho detto, questo qua non vedo l'ora che esce, sarà il gioco di ruolo occidentale definitivo. E l'hanno sparata grossa da subito, insomma. Sì. Cioè, beh, partire come successore di Baldur's Gate, diciamo che... Stai toccando il sacro, quindi... Esatto. E poi ovviamente a seguire ci sono stati una serie di trailer, se vi ricordate, uno più spettacolare dell'altro, dove facciamo vedere il sistema di combattimento, quindi questo qua molto cruento, visto che lo pubblicizzavano come un dark fantasy. Le colonne sonore di Marilyn Manson... Esatto, sì, c'erano le musiche This is the new shit di Marilyn Manson. Anche se in realtà poi diciamo, negli ultimi trailer sono andati più su soft, perché se ti ricordi poi hanno sostituito le musiche, quelle di dei 30 Seconds to Mars, This War. Non so se te lo ricordi. No, perché non mi piacciono gli rimossi. Ah, sì. Ah, ok. No, comunque fondamentalmente, quindi facciamo vedere tutte queste scene molto splatter, dove praticamente poi finito il combattimento c'era le classiche scene di interazione tra i vari protagonisti, e questi li vedevi sempre in armatura, proprio ricolmi di sangue addosso, neanche fossero usciti da una macelleria. Devo dire che comunque il gioco ovviamente questi primi hands-on mi hanno colpito abbastanza. Poi ovviamente è stato un gioco che io ho preso al day one, quando uscì a novembre del 2009. Feci la cazzata, devo ammetterlo, di prenderlo su console, e questo ovviamente sminuì un po' l'esperienza, come penso andremo poi a trattare più in là. Nonostante questo, insomma, resta per me uno dei migliori giochi di ruolo occidentali. Certo, non è arrivato effettivamente ad eguagliare il successo di Baldur's Gate, però Origins è stato e rimarrà almeno sempre nel mio cuore, assieme tanto per citarlo, a Mass Effect 1, uno dei migliori giochi di ruolo made in BioWare. Beh sì, anche io l'ho giocato su console, però poi in effetti su PlayStation 3 lo lasciai perdere, e poi lo acquistai e lo giocai su Mac, quindi figurate. Però insomma, comunque giocare su computer è sicuramente un altro tipo di esperienza. Sì, vabbè, c'è da dire che su computer, per esempio, almeno Origins aveva, oltre il discorso di texture, di grafica migliore, perché fondamentalmente su console era un gioco marrone. non me ne voglia Luigi. No, sono abituato. Nuovi giochi di parole col cognome di Luigi. Sì. che sì, c'è cresciuto già dall'asilo, sì, insomma, sta cosa. Però diciamo avevano eliminato anche una serie di caratteristiche nel gameplay, perché per esempio su console non era possibile avere una visuale tattica dall'alto, proprio come era effettivamente, se vi ricordate, anche Baldur's Gate fondamentalmente. Sì, sì. Beh, ed era stata diciamo limitata a una visuale appunto alla Mass Effect, alle spalle quasi del protagonista, e quindi praticamente diventava più quasi un hack slash action con la pausa tattica piuttosto che un vero e proprio strategico insomma fantasy, in chiave fantasy. Esatto, sì. esatto. Luigi, vabbè, tu comunque... invece mi restringete un po' il campo della domanda, Ma, in parole povere, come quando hai visto i primi trailer, quando ti è capitato di approcciarti, sì, al gioco, quali sono state le tue impressioni? Se eri molto preso, eri molto eccitato dall'uscita del gioco, e cosa ti sembrava di percepire dalla rete, non solo riguardo a questo gioco? Sì. Allora, non possedendo un PC performante, non ho mai utilizzato il PC come piattaforma per i giochi, che fondamentalmente sono di ruolo, ce ne sono tanti di ruolo sul PC. Al tempo ne erano molto pochi sulla Xbox, e quindi ogni uscita era accompagnata sempre da una curiosità, penso da parte della comunità videoludica, nel vedere dei nuovi prodotti di genere. Quindi io l'ho colto in questo modo qui, ho detto cavolo, BioWare che fa un GDR, insomma, che sembrerebbe tutto, è come prima cosa una novità dal punto di vista non so, della narrazione, della possibilità delle diramazioni e tutto quanto. Quindi l'ho accolto in maniera molto molto positiva. E la rete non sembrava che l'avesse... non mi dava l'impressione che l'avesse tanto spinta come attesa o come voglia, tanto quanto ne avessi io. Era più una una costola di Mass Effect, mi faceva pensare, come a dire, ah, c'è BioWare che ha fatto anche questo, però non spingeva dal punto di vista tecnologico, quindi era due spanne dietro all'impianto visivo di Mass Effect, e questo faceva una sorta di differenza. Però c'era la violenza di contro, il fatto che tutti i trailer portavano a personaggi che parlavano schizzati di sangue, era qualcosa che prendeva, ci diceva questo qua magari è grezzo, però ama sporcarsi, ed è qualcosa che lasciava pensare di tutto. E poi avevano pompato tantissimo il fatto delle classi che potevi scegliere all'inizio e avere tante storie secondo quando erano le classi, molto di più, ed era bello perché sembrava immenso, sembrava veramente un'epopea. Vero ricordo questo. E il piccolo Marco Gualdi invece? Ma io mi sono accorto del gioco soltanto qualche mese prima, perché... Ma non è vero. No, dai, nel 2004 proprio non me lo so cagato. No, beh, 2004 no, ok, però qualche poi di qualche mese prima. Qualche mese prima, 5-6 mesi prima, non è che stiamo a parlare di più di tanto. Però insomma, poi alla fine, vedendo, insomma, il fantasy mi piace, il gioco di ruolo pure. Vedevo insomma quello che erano i filmati che per lo meno vedevano tutti quanti, era un prodotto BioWare, venendo anche da alla fine Mass Effect, tanto perché cioè, abbiamo sempre quel gettone di presenza che ci dà, perché ci danno rientro, venendo anche da Kotor, diciamo, anche soprattutto da Kotor, ma Kotor non lo tocchiamo perché parlarne forse un giorno ne parleremo, ma parlarne solo, però l'aspettativa secondo me rispetto a Dragon Age era proprio più verso Kotor, perché ricordava verso... più Kotor, sì, perché era più un gioco del ruolo, veramente un gioco del ruolo, quindi l'aspettativa stava tutta là, cioè quando l'hanno annunciato abbiamo detto cazzo, stanno a fare veramente un gioco di ruolo vecchio che stampo. Che ricordi il buon vecchio Kotor, infatti c'era aspettativa. Io come ripeto, negli ultimi mesi l'ho scoperto, per cui mi è subito salita la scimmia, perché poi tra l'altro c'era il character editor, no? Ti ricordi che abbiamo scaricato il character editor per PS3 e abbiamo creato i nostri personaggi di merda, perché io poi io creavo i mostri, cioè, perché il mio personaggio poi che era Gioconno era un elfo con naso aquilino. Magari tra le note dell'episodio mettiamo qualche immagine dei tuoi personaggi. C'è strano, purtroppo non c'è Gioconno perché ho perso tutto quanto ho trovato di Gioconno di quella, purtroppo sì. Purtroppo mi ha detto sfiga. Lui gioca con dei personaggi che a dire brutti è... Vabbè, perché Stefano lui fa i vecchi che si si giurano tra, fammi curare la regola, fammi chiappettare la tradizione. Io voglio aprire una parentesi su me stesso dicendo, facendo una grave rivelazione. Io avevo creato un nano vecchio e brutto, esatto. Che avevo chiamato Sborromir. No, questo era lo spirito con cui mi sono approcciato a Dragon Age. C'è proprio della serie scanzonato, me lo può fregare di meno, insomma. Vabbè, in realtà è come, cioè, aspetta, il nano andava anche con altri vecchi nani, altri vecchi, ma è uguale, nani, chi trovava, capito, era un po', era una specie di playboy buona, dei insomma. Poveri insomma, c'è anche dato un aspetto un po' immagino, particolare insomma. Però erano voglio chiudere velocemente questa parentesi, non voglio più pensarci. No, infatti anche non ci vogliamo più, un po' ti fa paura questa cosa, ricordarla, sì. Ti genera delle eviti, insomma, ricordarcelo ulteriormente sarebbe anche meglio. No, mi diverte molto però questa cosa. Quindi beh, fatto Erpizzi, tu invece, scusa, invece che fare finta di niente. Vabbè, comunque, vabbè, in linea di massima, ecco quello che ho detto prima, cioè nel senso che comunque l'aspettativa non era verso un grande gioco, tant'è che quando sono uscite le prime anteprime, poi dopo vi faccio la seconda domanda che secondo me è anche la più importante per certi versi, però dico, quando sono uscite le anteprime in realtà noi ci eravamo accorti che la struttura tecnica del gioco non era all'altezza, come diceva magari Saso, rispetto a Mass Effect o rispetto ai giochi della stessa generazione, però in realtà noi puntavamo il dito su un altro aspetto, che era un gioco di ruolo reale, con regole da gioco di ruolo, con la tattica da gioco di ruolo vecchio stampo, e quindi la grafica era un problema secondario, e forse poteva anche, anzi magari alcuni erano riusciti a pensare che la grafica era stata come posso dire, sacrificata in virtù di una struttura di gioco capace, no, potente. Ovviamente sono pippe mentali, sì, esatto, pippe mentali. In realtà il gioco era in sviluppo da 75 anni e quindi chiaramente si portava dietro, insomma, magari un certo tipo di vecchiezza, insomma, proprio dal punto di vista tecnico. Però ecco, l'attesa è stata grande. Io devo dire che tutto sommato, ecco, vabbè, prima di dire questa cosa, la domanda che passiamo alla seconda domanda, perché in realtà, ecco, come abbiamo detto, l'annuncio è stato fatto molto in là col tempo e l'hanno subito sparata grossa con Baldur's Gate e via dicendo, però poi in realtà abbiamo visto che la campagna promozionale che è stata fatta su Dragon Age è stata molto massiva, molto massiccia, anzi trailer su trailer, dai, piccole anteprime massiva qua proprio abbiamo, sì, lo so, infatti i trailer con le fatality, ecco, come diceva Marco prima, il character creator, character creator e quindi insomma tutta una serie di cose, e il problema è che erano talmente tanti questi interventi che Bio Electronics Art ha fatto nei confronti del pubblico, che poi alla fine il rischio reale era quello di poter potenzialmente rimanere delusi, no, dalla cosa, perché quando poi l'hype tu lo fai crescere veramente a palla così in maniera potente, l'unica cosa che può succedere è che se il gioco non è minimamente all'altezza può sbragare proprio completamente il giudizio rispetto al gioco stesso. Io vado a partire proprio da Giuseppe su sta cosa qua. In realtà a te, se l'hype ti era comunque salito in qualche maniera, anche grazie a questi continui interventi, anteprime, trailer e via dicendo, insomma, poi alla fine qual è stato il tuo approccio, al di là del fatto che l'hai giocato poi su console e questo un po' magari ti ha anche penalizzato l'esperienza? Ma guarda, sì, poi diciamo, una volta che l'ho cominciato a giocare, effettivamente rispetto a quanto a livello del mio hype, a quant'era forte la scimmia, effettivamente c'è stato qualcosa, qualche piccola delusione, vedevi il gioco che insomma non era rifinito effettivamente per come lo facevano sembrare da tutti i vari video promozionali, video anteprime e quant'altro, e poi insomma aveva comunque effettivamente una struttura, diciamo, anche troppo old school, nel senso che ci si poteva comunque aspettare qualcosa in più, cioè non per forza che dovevano andare a riprendere più o meno il gameplay di Baldur's Gate, di KOTOR eccetera, potevano comunque osare un po' di più. Alla fine ci siamo sempre poi ritrovati sempre con una storia che io, da come te dipingevano per esempio le scelte, sembrava che effettivamente influenzassero proprio tutta la storia. In realtà poi per chi l'ha giocato, guarda che effettivamente hanno delle ripercussioni solo nel breve medio periodo, alla fin fine, e questo effettivamente mi ha deluso un pochettino. Poi vabbè, c'è la ciliegina ovviamente sulla torta è stato come sempre il fatto che anche Dragon Age, come tutti i giochi della BioWare, quando è stato rilasciato soffriva anche di bug. Non so se voi ve ne sono capitati. Vabbè, a parte le missioni che non potevano, però sì, vabbè, cioè, rispetto a tanti altri magari sì, però sì, ce l'avevano, sì, sì. Ma io per esempio ci ho avuto, non so se ve lo ricordavate, per esempio su 360 c'era un problema che praticamente mi ha fatto interrompere, mi pare, un mese il proprio di gioco, perché praticamente se tu sblocchi in Dragon Age a un certo punto tu hai la possibilità di specializzare ulteriormente il tuo personaggio, solo che queste specializzazioni, a parte una limitazione di livello, cioè dovevi raggiungere un certo livello per poterle prendere, dovevi anche sbloccarle facendo determinate azioni nel gioco. Bene, su 360 avevano il problema che se le sbloccavi per una partita non ti risultavano poi quando addirittura ricaricavi la stessa partita, non quando ricominciavi con un altro personaggio, che già era un po' più tollerabile. È bella merda, qua, per esempio, eh? È bella merda. Eh sì. Beh, ma guarda, io su PC no, probabilmente era una cosa proprio di Xbox, perché su PC non mi ricordo. Mm-hmm. O magari sono arrivati dei patch prima che ci arrivassi io, non lo so. Beh, anche quello, considera che lui comunque l'ha preso, cioè, al day one, sì sì. E probabilmente anche quello è il problema. No, io dei bug me ne ricordo qualcuno, però no, così. Vabbè, è vero, comunque io su PlayStation 3 l'ho lasciato perdere quasi subito, perché per mm-hmm. me era proprio ingiocabile. Ah, io non mi ricordo, forse qualche missione che magari era conclusa e il segnalino che stava ancora attivo, cioè cose del genere, però grossi cose da dire, porca puttana che cazzo sto giocando, non mi è sembrato. No, Skyrim no, no, ma vedi, comunque in concomitanza con Bethesda ci sono tuttora, se giocate anche ancora oggi a Origins ci sono tuttora dei bug non risolti. No, ma considera che io Dragon Age Origins me lo sono rigiocato su Mac, come ti dicevo, ma non tantissimo tempo fa, tant'è che in realtà c'è una parte finale dell'ultimo DLC, dell'ultima espansione, che ancora devo concludere, perché poi dopo un po', quando, cioè, magari devi pure spezzare un pochetto, nel senso, era già andato talmente in fissa e ci avevo già giocato talmente tanto che ho dovuto pausare un attimo, no? E in realtà, nonostante tutte le patch, tutti gli aggiornamenti e roba del genere, c'è una missione che io non sono riuscito a finire. Perché mettici pure che ce l'hai su Mac, per cui insomma quello potrebbe anche essere un altro problema. È la stessa versione del PC, la stessa versione che viene trasgamata. È quello il problema, che è cosa che... Ma a me personalmente, per quanto riguarda l'hype, non è stato tanto dato dal come dire, dai trailer, da quando girava in rete eccetera, quanto dai miei amici che avevano iniziato a parlarmi del gioco vedendo loro appunto i trailer. Mi hanno detto: ah, guarda, sta arrivando Baldur's Gate in 3D, questo e quell'altro, insomma 10.000 anticipazioni da parte loro. E poi devo dire che insomma effettivamente forse era un po' esagerata come presentazione, ecco, perché è chiaro che tra il dire e il fare c'è di mezzo il, come dicevano le storie tese, ma l'ho sempre trovato insomma un po' diverso rispetto a quello che ti presentavano in generale. Poi i trailer me li sono visti, sì, ok, ha mantenuto quel lato di violenza eccetera, però magari sì, anche io poi mi sarei aspettato nel finale qualcosa di diverso in generale, ecco. Però ecco, detto questo, possiamo anche dire che arrivano i test, arrivano le anteprime e ci si pone sempre il dubbio quando di fronte a dei reportage che ti danno delle anteprime di un certo tipo, degli articoli che spiegano, che dicono e non dicono, quante volte è capitato di leggere degli articoli appunto così oscuri, ombrosi, senza, insomma, basati poi su qualcosa che non era un prodotto finito, quindi era ancora qualcosa di allo stadio embrionale per certi casi, che comunque doveva essere rifinito. Giuseppe, ripongo a te la domanda. Quindi non è la prima volta che succede in questo caso, come in questo caso mi sembra che siamo tutti concordi sul fatto che comunque quello che hanno presentato non è corrisposto dato al 100% rispetto a quello che poi è stato dato al giocatore. A te vengono in mente anche altri casi o quante altre volte è successo? Se secondo te anche in questo caso effettivamente è stato così? Secondo... Allora, è stato così, però diciamo chiedermi vengono in mente altri casi, praticamente ti dico è sempre purtroppo così, cioè questa è una problematica che capita, perché se è più il titolo è tripla A, più devi dare copertura, cioè qualunque testata che sia giornalistica, cartacea o sul web deve comunque dare un certo tipo di servizio al publisher, alla software house, scrivendo e dando copertura a quel prodotto, perché ovviamente va bene, vuoi perché deve rispondere a certe esigenze anche di mercato, perché comunque se non dai copertura perdi anche rispetto agli altri tra virgolette concorrenti, no? Che ovviamente loro scrivono pure quel pezzo, e poi ovviamente viene fatto sempre comunque un hands-on su qualcosa che comunque non è mai ovviamente la versione definitiva del gioco, anche perché magari il gioco ha una lunga gestazione, quindi addirittura e già siamo fortunati quando capita che questa cosa viene fatta da una persona che abbia effettivamente provato anche il gioco, cioè l'ha provato magari perché è andato a qualche tour, a qualche press tour particolare, o l'ha visto in qualche fiera. Diciamo che almeno la metà delle volte in realtà cioè la persona che scrive l'articolo in realtà non l'ha neanche provato, si tratta fondamentalmente di notizie prese da altri lidi fondamentalmente, e quindi da qua si crea diciamo un tam tam mediatico che ovviamente stuzzica il videogiocatore che segue quella determinata software house, no? Sì, beh, purtroppo è una pratica comune, ma è data dal... come dire, dalle necessità di mercato. Sì, questo esatto. Non è solo colpa loro, ma succede per tutto, quindi è quasi parlare di un sentito dire, ma ho spesso sentito dire da persone che ti, come dire, che hanno fatto il gioco, quindi è chiaro che non ti diranno che il gioco fa schifo, quindi esatto. Quello chiaramente porta una serie di problemi poi ai giocatori, perché leggi una cosa e ne compri un'altra, ma poi in realtà qui dovremmo riaprire anche vecchi discorsi, nel senso sembra che poi vogliamo andare a mettere sempre il dito nella piaga. No. Sì, beh, sì. È chiaro che, cioè, nel senso, è un problema che comunque è conosciuto, secondo me, questo delle anteprime, troppo anteprime, diciamo, quando proprio non c'è neanche la possibilità, quando magari il gioco l'hai solo visto. Il punto è che magari andrebbe specificato il fatto che di quell'anteprima è basata su un video, non su gameplay. Esatto. Questo spesso succede, non sto dicendo che sia sempre così, però in molti casi non succede, allora uno pensa che sia... cioè uno si aspetta qualcos'altro, e questo secondo me è il grosso problema, che a saperlo va bene, il problema è quando non lo sai e magari compri il gioco al day one basandoti su quello che è un video di una beta, chi lo sa, o un video visto su un gioco che è stato fatto girare su un computer e non sulla console, per fare un altro esempio. Questo è un grosso... È più facile ultimamente. Quello sì, ma è dato dal fatto che comunque le console sono alla fine del ciclo di vita. Quindi è chiaro che, come dire, il gioco... cioè, c'è una netta differenza tra il gioco su console e il gioco su PC, con un PC performante. Però è quello che succede più o meno sempre alla fine di ogni ciclo di vita delle console, almeno da quando, dalla PlayStation in poi, credo. Perché, insomma... la cosa non riguarda sicuramente il Super Nintendo, ecco, al suo tempo era fatto girare, cioè il gioco era quello effettivamente, non è che vedevi cose non così incredibili. Lo facevano girare su PC, insomma. Anche se lo facevano girare su PC era la stessa cosa, cioè nel senso... era quello. Sì, era quello, e magari è dopo che vedendo un filmato di, faccio un esempio, un nuovo Metal Gear Solid visto sul PC, su un PC moderno, attuale, potente, dici porca puttana, poi lo vedi girare su PlayStation 3, su Xbox 360, pesante, dice, ma e vedi pixel, sì, cioè vedi pixel, vedi un bel gioco con una bella grafica, ma non a livello del questo è il problema del multipiattaforma, no no, ma io dico che questo è sempre stato così, comunque non è che dalla PlayStation in poi, però, perché comunque sì, vabbè, no, dal multipiattaforma, bugia, che poi è stato, è vero che anche prima capitava che per le recensioni di, anche dei vecchi videogiochi fossero basate su cioè a quei tempi magari il giocatore era costretto a farsi un'idea dalle immagini addirittura, e in certi casi magari ti fregavano con la versione per sala giochi, era lì l'inghippo. Oh, per esempio Stefano, pensa un po' anche, sempre ritornando ai giochi, diciamo, delle passate generazioni, pensa che per esempio i giochi che uscivano, se vi ricordate, su Commodore 64 e Spectrum, o Spectrum, che c'erano tipo la doppia, la stessa versione, tipo per mettevano quella migliore come foto. Esatto, sì. Ma avevano certo, per esempio gli screenshot, no, infatti era quello che dicevo migliore, cioè, esatto, che alla fine sta cosa, è sempre, c'è sempre stata, non è che è una cosa che esatto, è chiaro che poi alla fine soffriva. Allora il problema è che il legame a doppia corda tra console e PC adesso è il fatto che chiaramente per motivi produttivi e chi è inferiore tiene legato, diciamo, alla briglia chi è superiore, e questo è inevitabile, mentre che prima cioè c'erano proprio non c'era neanche un passaggio, capito? Non facevano neanche una transcodifica. Spesso e volentieri i giochi venivano proprio riprogrammati da zero, no? Nel senso, facevano la versione PC, facevano la versione 64, la versione Spectrum, che erano due giochi identici come concezione, come gameplay, ma erano sicuramente giochi completamente diversi. Era anche più facile programmare, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista grafico. Capo era più facile che poi che fa il porting, no? Poi il porting invece addirittura alcuni di questi giochi, se ti ricordi Simo, avevano pure, per esempio, proprio a livello di level design cambiavano completamente, cioè i livelli per esempio di una versione erano completamente diversi rispetto a un'altra. Ti porto un esempio stupido con un gioco che non so perché mi è tornato in questo momento. Non so se chi di voi ha mai giocato a Lupo Alberto. La versione Commodore 64 e quella Amiga avevano livelli completamente diversi, proprio come dislocazione delle piattaforme. Sì, sì, ma veramente so, sì, io c'erano livelli giochi, che mancavano. Io non ho visti tanti dei giochi che erano diversi proprio, cioè, per esempio Match Day. Match Day, la versione per 64 era uno schifo rispetto a quella per Spectrum, paradossalmente. Gli altri giochi per 64 su Spectrum erano riappezzati, quindi cioè non c'era il porting, appunto, come diciamo prima. E adesso comunque chiaramente la console soffre rispetto a magari ad hardware più potenti del PC, però nel porting, ovviamente per questione di porting, tiene imbrigliato il PC, cioè le console tengono bloccata sta generazione in qualche maniera. Si risparmiano qualche soldo, però. Ma alla fine, anche sti cazzi, perché io poi sta mania di dover andare a 65 milioni di frame a 4000x4000 non ce l'ho mai avuta, neanche quando giocavo. Cioè, mi ricordo quando si giocava a Doom, no? Che se testavano le schede grafiche, tu a quanti frame vai? Oh, io sto a giocare a 600x400, il mio coglione, hai capito? Quanto sei forte, queste cose così. A me, infatti, sono d'accordo con te, Simone. Cioè, a me non interessa tanto l'aspetto tecnico, però diciamo a me la cosa che mi fa incavolare, appunto, è, tornando sempre al discorso di Origins, è per esempio quando togli proprio certe feature di gameplay, cioè per esempio come quel caso della visuale, quella tattica. Ma io penso che lì la PlayStation, manco, non solo l'Xbox, ma la PlayStation secondo me non ne ha più. Sì, ma penso, cioè, la visuale dall'alto c'è molto meno dettagli. Vedi che cioè, quando poi magari parleremo poi anche del Dragon Age 2, in Dragon Age 2 l'hanno reimplementata e l'hanno messa per tutte e tre. Poi invece per quanto riguarda le features, adesso dai che la memoria mi assiste, anche perché insomma è quella che è. Ma ti ricordi se c'erano proprio all'interno dei menu dei cambiamenti, nel senso, io programmavo i giocatori, i personaggi, a fare determinate cose in base a a ciò che succedeva nel gioco, quindi non so, il curatore doveva curare i personaggi, tattiche, se scendevano sotto una certa, scusa? le tattiche, giusto? Il sistema di tattiche, esatto, pure quello, esatto, per, nel primo Dragon Age. Mi sembra Dragon che fosse depotenziato, stato... perlomeno su PlayStation 3 mi sembra che fossero meno possibilità. Mo, esatto, magari... esatto. E la stessa cosa era pure su 360. Rispetto sempre al PC, diciamo, ha avuto un arrotondamento verso il basso, fondamentalmente. Ma comunque, Marco, invece, per quanto ti riguarda, per appunto il problema anteprime di insomma, a cui poi derivano degli articoli decisamente poco chiari, anche degli articoli, tu intendi dei prodotti? No, degli articoli proprio magari delle recensioni, delle recensioni sulle anteprime. Quindi, ma io prendo sempre un po' con le pinze, perché poi alla fine, soprattutto quando pompano i giochi in maniera incredibile, basandosi poi su versioni veramente meno che beta, cioè alla fine di che stiamo a parlare? Mi fai un super commento di un gioco che praticamente hai preso un filmato di, forse un filmato di un pezzo di gameplay con la parte tutta preprogrammata, alla fine. Insomma, io l'ho sempre preso, ma un po' tutto, tutti quanti gli articoli, prendo un po' con le pinze, quindi aspetto sempre poi alla fine di vedere qualche cosa di più, diciamo, definitivo. Mi diciamo, guardo più gli ultimi 2-3 mesi che gli ultimi 2-3 anni. Nello specifico, Origins, sì, c'ha avuto 5 anni di sviluppo. Cioè forse di più, perché è stato annunciato nel 2004, quindi probabilmente lo sviluppo era già cominciato, quindi alla fine sai com'è? Anzi, dici il tempo ce l'hanno avuto, tipo un Gran Turismo che esce 6 anni dopo e lo rimandano ogni 2 mesi inventando, poi esce perfetto, però esce perfetto. Perfetto nel senso che ancora lo stanno a fare, certo, perché perfezione, mentre i giochi loro continuano a svilupparlo, cioè, per come diceva Luigi, è sempre frutto perfezionato, ma quello è un problema giapponese. È un tipico problema giapponese. Penso fondamentalmente che secondo me chi si fa prendere l'entusiasmo è perché ha voglia di farsi prendere l'entusiasmo. Io per esempio sono uno di questi, no? Cioè quando vedo una cosa che veramente non vedevo l'ora, che l'aspettavo, roba del genere, so che se mi entusiasmo poi posso rimanere deluso, però mi piace entusiasmarmi, no? Nel senso, per me con Dragon Age, per almeno il primo, è stato così. Cioè, per me era un rivedere alla luce un qualcosa che pensavo non sarebbe mai più tornato nei schermi da videogiocatore, perché chiaramente appartiene, con tutte le modernizzazioni, con tutte le facilitazioni che vogliamo, roba del genere, comunque riportava alla luce un genere che era, possiamo dire, sparito, che era un ritorno alle origins. Alle origins, ma infatti non è, secondo me non è un caso, sai, Simone, abbiamo diciamo, e chiudendo velocemente una piccola parentesi, quest'ultima cosa che hai detto mi ricorda l'hype che ho in questi giorni che esce per il remake del nuovo XCOM, Enemy Unknown. Now è presente? Vabbè, io XCOM non lo conosco, vabbè, ce l'ho proprio bypassato. No, però ho visto quello che hai scritto su Facebook, sì, quindi che non mi sarei mai aspettato, diciamo, uno strategico a turni vecchia scuola. Ma io ti dico guarda, vabbè, quello poi ne avremo di che parlare, anzi poi se vuoi ti propongo la recensione, ma non sarebbe male. Guarda, ma io ti devo dire la verità, che io, per come la vedo io, proprio perché c'ho questo sapore, no, verso le cose di un certo tipo, a me se me li propongono chiaramente deve essere rimodernizzato, cioè deve essere una certa dinamicità, perché altrimenti sarebbe praticamente impossibile giocarlo. Però un gioco come Fallout, ma io me lo giocherei, cioè te dico la verità, anche come remake, come io gioco me lo sto indie, giocando da 6 mesi Fallout, quindi penso un po', ma sì, mo Fallout ovviamente ovviamente 6 mesi, perché no, ci gioco un'ora al mese, no vabbè, però Fallout è come il primo, poi magari oggi sarebbe pure improponibile giocarlo, perché è pure difficile, difficile. Però a me se uscisse, che ne so, un team indie che me li proponesse con la bella grafica, con comunque dei remake di quel tipo di giochi in quella salsa lì, quindi giochi di ruolo a turni o del genere, oppure non so se vi ricordate i vecchi giochi della SSI, i vecchi Dragon Age, Dungeons and Dragons, Pool of Radiance. Perfetto, cioè io sinceramente mi giocherei, ma pure. Cioè, ma tranquillo, ma chiaramente io ho 40 anni, nel senso è un discorso diverso. Non è che mi aspetto che facciano un gioco AAA o comunque investano soldi per fare questo. Però se qualcuno comunque lo facesse, insomma, io e capisco il perché comunque magari Giuseppe per esempio si meraviglia ed è affascinato dal fatto che facciano un remake come quello di XCOM, insomma, perché ma ci stava, ma vabbè, questo anche qui dico una cosa velocissima e concludo, perché XCOM comunque è un gioco che era molto moderno anche quando è uscito, e secondo me era effettivamente un peccato non farne un remake, forse non in questa chiave, però è un gioco che meritava sicuramente di essere ripreso proprio come idea di gioco, questo e tanti altri. Adesso non mettiamoci a parlare di questo, se no non la finiamo più, perché davvero ci sarebbe da farne un episodio a parte solo di remake che sarebbero da fare, ma magari ci sarà la sede. Quindi per collegandomi poi alle origini, quindi alle anteprime, invece qui si parla in contrapposizione di quello che viene dopo. In questo caso, quindi, dopo che è uscito il gioco, Electronic Arts e non solo hanno avuto e continuano ad avere la tendenza a rilasciare dei DLC all'uscita proprio, quindi con personaggi importanti, con delle parti che sono state tagliate senza un motivo preciso o comunque insomma senza dare una motivazione che se non di tipo diciamo economico, ecco, al fatto che questo DLC sia uscito dopo. Faccio in questo caso, porto l'esempio personale anche di quei giochi che presentano dei DLC come Street Fighter Cross Tekken, ma anche Gears of War, che presentano già dei contenuti nel disco che poi vengono sbloccati a pagamento dopo l'acquisto. Terribile sta cosa. Vedi che notizia tra parentesi di oggi, ci aggiungo pure Resident Evil 6 e così. Ah, ecco. Hanno notizia di oggi che hanno fatto il data mining dei dati sul disco, eh? Però non da quello che ho letto io, bello, gli ho dato un'occhiata, quindi non mi sono informato. Non sono DLC, cioè sono contenuti, ma non sono DLC. Sì, ma te li ripresenteranno come DLC a pagamento. Cioè loro ti fanno scaricare il codice. Esatto, sì, però non riguarda contenuti di gioco. Cioè, non lo so, non ho letto lui sta giocando, saprà meglio di te. Scusa. Beh, semmai non penso che si andrà a vedere il codice, semmai avrà letto quello lui. Tu non lo conosci tanto. Perché lui fa questo è altro. No, lui vede il codice mentre gioca, sì, capito? Così, cioè, comunque tornando al discorso di Origins, ovviamente ti stavi riferendo a Il prigioniero di pietra e cos'era? La fortezza dei custodi. La fortezza dei custodi, esatto. Sì. Erano questi due, di cui tra parentesi loro hanno fatto la cosa, diciamo, paracula, che erano dei DLC che loro ti davano se compravi una copia nuova, fondamentalmente, quindi te li trovavi. Se invece ti compravi il gioco usato, quindi c'era stata tutta una mossa per combattere l'usato, che era già stata, se vi ricordate, anche impiegata prima pure con Mass Effect 2, con col Cerberus Network, se vi ricordate. Più un altro personaggio mi pare che c'era pure incluso Zaid, esatto. E poi dall'altro, ovviamente, perché fanno questa cosa dei DLC già pronti, fondamentalmente, perché in questa maniera tu, diciamo, aspetti prima anche di rivenderti il gioco, fondamentalmente, cioè non lo finisci lo vai a rivendere subito, che so, al GameStop, perché sai già che comunque se ti hanno presentato questi qua dietro l'angolo, a distanza di un mese, ce ne sarà sicuramente un terzo, come più o meno c'è stato per Dragon Age, che c'è stato il ritorno ad Ostagar dopo un paio di mesi dal lancio. Sì, se sono arrivati per 6 mesi, una cosa del genere. Esatto. No? L'ultimo era quello del Pro Oscura, mi sembra, no? Che tu facevi la parte del Pro Oscura. Sì, adesso sì. Non ricordo come si intitolava. Sì, quello era Darkspawn Chronicle. Sì, Darkspawn Chronicle, sì, esatto. Esatto. Non starete mica parlando di Mass Effect, vero? Eh? No. Non starete parlando di Mass Effect, vero? no, no, assolutamente no. Chronicle era praticamente il DLC per Origins che ti faceva combattere l'ultima battaglia a capo dei cattivi, fondamentalmente. No, stavo scherzando, avevo paura che finisse in DLC. No, scherzando. Anche qui sto rischerzando. No, allora. Anche se comunque vedi che quello, diciamo, secondo me sì, vabbè, era interessante come concept, però quello, diciamo, è stato anche tra i contenuti più, tra virgolette, riciclati, perché era sempre la stessa mappa che andavi a fare. Ecco, ma io mi chiedo, Sì, praticamente era il what if se il custode grigio tu che avevi creato tu, che esatto, il tuo personaggio moriva, no, fosse morto. Ma era fighissimo, a me è piaciuto morire. No, ma al di là di questo era interessante, dico, come cosa, però diciamo era un contentino, un filler rispetto, che so, a sì, ma guarda, devo dire, a me DLC, i due DLC mi sono piaciuti di più sono proprio quelli che esulavano da quello dal che gioco tu avevi principale giocato. Sì, no, esatto, quindi era la storia della barda la barda spaziale, no, spaziale. Infatti, per esempio, sono d'accordo con te, Simone, perché il canto di Liliana secondo me è tra i più bravo, belli di Origins. Bravo. A me è piaciuta tanto l'armatura del drago, eh? Quella bellissima, mi ha divertito tantissimo, è stata molto bella. Eh sì, quella è un'armatura, però. Giuseppe, ma a te questa cosa, come dire, dà fastidio? Cosa ne pensi di questa questione di DLC all'uscita del gioco, praticamente? Cioè, a ridosso, ma in tempi estremamente ridotti, non si parla di un anno dopo. In questo caso, invece, faccio l'altro esempio, quello di Alan Wake, dove i due DLC, due o tre DLC, non mi ricordo quanti. Due. The Writer è un altro di cui non ricordo il nome. Il segnale, ok. Ecco, lì invece mi ricordo che erano usciti con un certo distacco rispetto all'uscita del gioco. Tu invece come ti poni? Tu personalmente, a te dà fastidio il fatto che ne escano, cioè che escano in così poco tempo dei DLC solitamente a pagamento, oppure non te ne frega niente, oppure lo preferisci perché pensi avrò già qualcosa da giocare dopo? Allora, io ho un sentimento misto, nel senso che, vabbè, siccome magari per questi giochi, cioè per i giochi, per esempio, compro lo stesso al Day One, non mi interessa, perché dici tanto li prendo e ce li ho già, tanto meglio. La cosa che a me più che altro dà fastidio, spaventa, è un domani, per esempio, ed è nel caso dei giochi della BioWare, è così, quando praticamente hai questi DLC che fanno l'autenticazione col server. Quindi un domani che a distanza, cioè io so che tra 3 anni che non ci sarà più magari BioWare, quindi se EA è chiuso i server per quanto riguarda Dragon Age, non potrò giocare a quelle parti perché l'autenticazione al server fallisce, sempre per il discorso dei DRM, se ti ricordi. E questa cosa purtroppo con Dragon Age 1, con Origins e con Dragon Age 2 non diciamo troppe cose sui DRM, non diciamo troppe cose perché poi ci dobbiamo fare una puntata sui DRM. Quindi Marco, come potremo esimerci da questa cosa? Marco, sì, tu invece come cosa ne pensi di ciò, di questo ambaradan di DLC che muoiono tutti? Giuseppe abbia finito di dire la sua, perché no, ho finito, vai. Okay. Io l'avevo capito, ovviamente. Se invece che interrompermi, cioè non fa proprio lavorare con te, Marco. Sei un ragazzo, sei uno sbandato, guarda. Dicevo, per quanto riguarda i DLC, allora, qui i DLC che sono delle aggiunte al gioco possono anche andare bene, sono delle aggiunte, se ti va di comprartele perché ti aggiungono qualche cosa in più rispetto al gioco base, potrei anche essere favorevole. Cioè, se proprio ci vuoi buttare i soldi, va bene, se non ci vuoi buttare i soldi, però non deve essere fatto in modo che questi DLC non vadano a intaccare l'esperienza di gioco che hai vissuto fino a quel momento. Faccio un esempio, vi ricordate Assassin's Creed 2 per quanto riguarda le missioni di Leonardo da Vinci tagliate dal gioco e vendute a parte come DLC? Sì. Sì. Quella è una merdata, perché comunque quello fa parte della trama, tu mi hai tolto un pezzo di trama per venderla a parte, ed è una cosa che francamente muori di bestemmia, cara Ubisoft. Se invece mi vendi, che ne so, Return of Ostagar, tanto per dire che comunque è un'avventura che puoi giocarla o non giocarla, comunque tu il gioco te lo puoi godere lo stesso, beh, venga, può anche venire. Se vuoi spenderci dei soldi, ce li spendi, se no no. Shale, per dire, quello no, quello è un pezzo di trama, cavolo, mi stai togliendo il personaggio, mi può cambiare comunque il punteggio massimo di esperienza che posso avere perché gioco delle missioni in più. Tornando al poco citato Mass Effect, i vari Zaid e Lada, comunque i personaggi che ti vengono dati dopo, che soprattutto spesso vengono rilasciati dopo che hai finito il gioco. È cosa, cioè cosa inutile, tu mi hai tolto un pezzo di gioco, un pezzo di trama, volendo anche. È sempre una possibilità di incrementare l'esperienza complessiva del personaggio, perché ci vuoi fare due soldi in più. E questo no, è l'amore di bestemmia, anche tu BioWare. Perché comunque secondo me è una cosa che è veramente zozza. Quindi boss... fondamentalmente se, se questi DLC aggiungono senza togliere nulla nell'esperienza del gioco, sti gran cazzi, cioè se, se vuoi te li compri, se no no, comunque la tua esperienza rimane integra, ma se sono pezzi di gioco per personaggi o comunque delle possibilità in più che puoi utilizzare all'interno del gioco principale che ti vengono tolte, allora questo un po' mi fa rodere il deretano, insomma. Io posso aggiungere un'ultima cosa? Sì. Certo, diciamo, mi aggiungo a me un altro tipo di DLC che mi dà fastidio fondamentalmente sono invece quelli appunto extra, tipo come era stato per, sia un pochettino per Dragon Age Origins che, ma soprattutto per Dragon Age 2, quelli praticamente degli item, degli oggetti potenti che fondamentalmente ti facilitano il gioco. Esatto, ti facilita un gioco che comunque già di per sé non è semplice. Quella è un'altra storia, quella fa parte secondo me fa parte delle cose che tutto sommato se non te le compri anche meglio. Esatto. Sì, cioè l'averle ti rovina secondo me l'esperienza complessiva. Certo. Sì. Ma Simone, tu invece un tuo parere veloce sul problema DLC, problema o vantaggio a seconda di come lo puoi vedere. Io qui sollevo una questione in questo caso, e se invece i DLC, anche quelli all'uscita, fossero fatti per una questione tecnica, nel senso nel disco non ci sta tutta quella roba, allora noi facciamo uscire una parte che verrà scaricata sull'hard disk. No, sono cazzate, mi dispiace, non te le faccio venire neanche la parte, sai perché? Proprio vabbè. No, vabbè, in realtà voglio dire, quando c'era l'Amiga 500, tu giocavi un gioco, poi andavi dal negoziante qualche mese dopo e usciva il data disk o le espansioni di quel gioco, perché erano comunque su floppy da 1,44 o addirittura 7,20, se non mi sbaglio. Quindi ci poteva anche stare sto ragionamento. Allora, le espansioni nei giochi sono sempre esistite, no? In maniera limitata e solo su determinate tipologie di giochi, chiaramente, perché non è che un platform ci avesse un'espansione o un DLC o una prosecuzione, quello finiva lì. Però nei giochi di ruolo o nelle simulazioni, sì, vabbè, certo, una volta, o nelle simulazioni o nei giochi di ruolo, bene o male, invece questa cosa esisteva, è sempre esistita, c'è sempre stata, no? Addirittura esisteva pure dai tempi appunto della SSI, quando, che l'ha dato, che l'abbiamo citata prima. Il problema di fondo è legato al DLC oggi, cioè come politica commerciale, che è poi probabilmente un argomento che prima o poi in qualche maniera tratteremo in maniera un po' più approfondita, anche magari facendo qualche ricerca, cercando anche di far intervenire qualche ospite, DLC probabilmente. Fare qualche DLC come ospite, perché il problema è che l'abbiamo visto, se non erro, guarda, anche Resident Evil 5, oltre poi al famoso caso di Prince of Persia, no? Il finale alternativo o il finale reale. Vabbè, pure Fallout 3 c'era questo problema qui, cioè, in realtà alcuni di questi giochi addirittura ce l'hanno già incorporati, no? E quello che tu vai a scaricare è un codice d'attivazione, no? Ed è la cosa ancora più terribile, perché in realtà non c'è una giustificazione tecnica, è proprio una speculazione, ok? E la speculazione, questo è un discorso che noi abbiamo fatto già tante volte. È vero che Luigi dice, però il bello dell'era di oggi è che i giochi sono sempre in divenire. Sì, è vero, però è vero pure, io ribadisco sempre che comunque io compro un bene di intrattenimento del quale io usufruisco, lo compro a prezzo pieno e mi aspetto che l'esperienza sia piena. Poi dopo, se tu vuoi aggiungere un qualcosa, e questo sta a me decidere se viverlo o non viverlo, ma quando io gioco un gioco ho comprato a 60 euro un gioco come Fallout 3, che è stato il gioco che ho adorato e venerato come se fosse il mio dio, però poi arrivo al finale e vedo un finale che è palesemente troncato per me, ovviamente, ma è palesemente troncato. A quel punto io mi pongo poi ovviamente il dubbio se proseguire, se accettare o non accettare questo tipo di sistema. Il problema è che purtroppo i videogiocatori è gente molto smaniosa, che comunque lo vuole il DLC e comunque vuole vedere come finisce mai una determinata cosa, e quindi si tende ad accettare implicitamente questo tipo di sistema. Però è un tipo di sistema che secondo me fondamentalmente è sbagliato. C'è qualcuno? Ribadisco, cioè, sì. Alcune espansioni, ci sei perché solo non tu. So DLC ci semplici, ma sono proprio espansioni di Dragon Age Origin, sono spettacolari. Dice, alcune non sono puramente, sento, sono pure speculazioni, cioè, nel senso sono proprio lì da serie sulla chat. Invece non sento proprio, sono morti completamente. Ok, sono oggetti. Sì, sì, sì, no. Quasi cogliendo un po' l'occasione di questo discorso che ho fatto, volevo dire poi tra l'altro una cosa su Mass Effect, dato che ci stiamo, no? Perché così almeno tutti potranno sempre dire: ah, ma il gettoncino della Bayer lo prendiamo, lo dobbiamo prendere sempre. Sapete che sta per uscire la trilogy, no? Mm-hmm. Nel senso, comunque tutto il pacchetto completo. Che non è completo. Ma sarà proprio così? Che non è, appunto, no, è proprio questo che poi tra l'altro, mm-hmm, quando Marco mi ha mandato un SMS, dice: dai, sta uscendo la trilogia di Mass Effect. Mm-hmm. Cazzo, anche su PlayStation 3. Ah, cazzo, che figo. Ok, allora, la prima cosa che mi sono detto è: chiaramente, se tu fai un pacchetto così, a 2, 3, 4, 5 anni dall'uscita dei giochi, diciamo così, tra virgolette, a parte l'ultimo che è uscito adesso, e chiaramente ci metti tutto dentro, no? Cioè, perlomeno i primi due ci metti rotto. Accetto pure che mi fai pagare 100 euro, 110 euro, lo posso pure accettare. Guarda, proprio con o senza IVA? Con l'IVA, con l'IVA, vabbè, chiaramente. Okay. A quel punto, perché vabbè, magari comunque mi fai comunque pagare alcune cose, però dentro mi ci metti tutto. Cioè, non mi fai ritornare al fatto che io poi dopo i DLC, che comunque io li voglio, cioè nel senso li voglio giocare, me li devo andare a comprare separatamente. Per me è una cosa, cioè stavo sempre su questo discorso qua, che per me è oramai diventato un ma scusa, che problema, cioè nel senso, se loro invece ok, ti danno tutti i DLC usciti adesso, mm-hmm, e poi fanno uscire qualcosa dopo, perché l'hanno effettivamente realizzata dopo, quindi come dire, per una questione di tempi di realizzazione, loro hanno deciso di creare un DLC, cosa ne so, l'hanno iniziato a creare mentre usciva la trilogy e poi hanno creato un DLC. No, vabbè, scusami, però almeno diciamo dei primi due, i primi due ormai sono considerati chiusi, canone, ormai su storia finita, stop. Esatto, non dico il terzo. Ah, quindi però tu parli solo dei primi due nel caso della trilogia, ovviamente. Tre anni che è uscito, cioè, il primo Mass Effect. Sono 5 anni. Ma guarda, secondo me se vado sui server dei PlayStation Network manco li trovo più dietro di questo. E se ti fanno uscire qualcosa per i primi due invece? Cioè qualcosa che sia collegato a uno dei primi due Mass Effect, come DLC. Magari hanno deciso di riprendere una storia parallela che poteva essere sviluppata meglio nel primo Mass Effect, una storia X, e ti fanno uscire un DLC. Ok. Questa, tu dici una cosa ex novo. Esatto, cioè okay, proprio, ma qui non hai capito, qui proprio non ci stanno, cioè non ci stanno, no, non i DLC e i DLC che erano presenti nel gioco, cioè, allora, nel senso, del primo, cioè non sembra che ci siano. Non ci rimettono. Cioè, non ci rimettono, a parte diciamo la cosa per l'online del Cerberus Network, della rete dell'alleanza, Giuseppe, del terzo, cioè insomma le cose che servono per progredire, esatto, nel gioco, cioè proprio Giuseppe, forse del primo, cioè, ci sono gli DLC Pinnacle Station e Bring Down the sì, Sky, non ci stanno tutti, sì, cioè, sono due. Lo so, ma non, cioè, ho letto che comunque quello che ho letto è che tra il primo e il secondo non ci stanno, tra il primo e il secondo, esatto, il due non ci stanno sicuri tutti, ci stanno qualcuno ma non tutti. Che poi, scusate, tornando sempre al discorso collegandoci con Dragon Age Origins, è strano perché comunque la BioWare l'ha fatto, se vi ricordate ha fatto uscire a distanza di un anno una super mega edizione di Dragon Age Origins che era Ultimate Deluxe Edition, che c'aveva proprio tutto, c'era tutto dentro, compreso persino l'espansione Awakening, bravo, esatto, io quella c'ho infatti tutto. Esatto, cioè nel senso è quello che mi sorprende, cioè mi ci fai la trilogia, cioè per permettere anche, soprattutto in particolar modo per gli utenti PS3 che comunque in qualche maniera hanno vissuto in maniera mancata, no, l'esperienza, e quindi tu mi permetti di riprendere tutto il gioco, cazzo, cioè a cannone proprio, cioè, no, niente, boh, per me vabbè, comunque è inconcepibile, andiamo cioè avanti. Ma tanto Luigi è ancora in pausa pranzo. Allora, quindi in questo caso, dopo aver parlato tanto del primo, è il caso di iniziare a discutere del secondo, dato che dopo 6 mesi dall'uscita di Origins annunciano il secondo capitolo e annunciano anche il fatto che questo secondo capitolo farà parte di una trilogia. E questa trilogia realizzata in tempi brevi, diciamo. E noi ci aspettavamo un lavoro che da alcuni è stato definito con un termine aulico, cioè a cazzo di cane. Sì, certo. Che si può tradurre in inglese come a cazzo di cane. Ed effettivamente un po' è stato così. Perché tutto sommato possiamo dire, insomma, che adesso senza proprio... senza dicendolo velocemente, ecco. Il secondo capitolo risulta inferiore al primo, sì. Cioè, senza facciamo neanche discuterci appunto, troppo. Dico. Noi ci aspettavamo che fosse, cioè io, Simone, non so se voi anche avevate questa idea, però noi ci siamo un po' aspettati che fosse fatto un po' a cazzo di cane. No, io sì, ma poi soprattutto la conferma è arrivata quando, se vi ricordate, a distanza di cos'era, un paio di mesi, uscì pure la demo su Xbox Live. Non so se l'avete giocata. La demo l'abbiamo bypassata completamente. No, infatti sì, non me la so proprio minimamente considerata. Io invece l'ho scaricata e l'ha veramente mi sono cadute le braccia, per non dire qualcosa. Posso altro. Partire io in questo caso? Sì, poi sì, dai, che sta rovinando bestemmie da un po', dai. No, in realtà io parto io perché io sono un po' controcorrente rispetto questa cosa qua, cioè quello che voglio dire sono due cose. Primo, che io comunque l'ho giocato e mi so dire, cioè mi è piaciuto, cioè, tutti nel senso, l'abbiamo giocato e tutti ci siamo divertiti, cioè nel senso che io non è che ho detto ma proprio fa schifo, proprio lo butto via. Quello che mi ha dato fastidio, cioè dovrei dire una cosa che in teoria non bisognerebbe dire, è che in realtà se l'avessi comprato mi sarei incazzato. Ok, questo è un po' invece poi me l'hanno prestato. L'ha prestato un amico dei tuoi amici su internet, sì. Cioè, esatto. Degli amici vicino al torrente, insomma. Sì. A Tuscolana. Esatto, a Tuscolana, esatto. E a quel punto, però, cioè, il gioco di per sé, cioè la storia c'era. E il problema è che cioè, secondo me quella è un'espansione. Cioè un'espansione infatti è proprio da Giuseppe che volo, perché io la mia idea, penso anche Marco l'idea sì. nostra ce la siamo fatta, però tu che sei un po' più, cioè nel senso magari te la sei studiata bene la questione. No, scusa Giuseppe, Simone, dimmi un po', cioè qual è la vostra idea, così poi passiamo a quella di Giuseppe. Voi, poi dopo è solo un mega DLC secondo voi? Per me quella era nata per essere un'espansione. Poi chiaramente per qualche ragione per qualche ragione è stata dirottata verso il secondo capitolo, e quindi a quel punto l'espansione l'hanno dovuta far crescere, no? Cioè nel senso, secondo me l'hanno infarcita di roba per non farla, cioè per farla diventare un gioco che durasse 15-20 ore, insomma. Però fondamentalmente secondo me il principio di partenza non era quello di essere la storia originale del secondo capitolo. Cioè, okay. Senso, secondo me, per me quello là, cioè, è troppo focalizzato e localizzato in un punto, pure geograficamente, in maniera fondamentale. Cioè, nel senso, lì comunque sei dentro la città e due o tre location fuori, a parte basta, qualche cosa fuori, però sostanzialmente è tutto lì, no? E anche c'è una certa ripetitività di fondo, sia di missioni che anche dal punto di vista estetico, anche dal punto di vista di dungeon. Dungeon riciclatissimi, con addirittura dei passaggi che venivano aperti o chiusi a seconda di quale prendevi. Esatto, cioè, infatti. Quindi, cioè, secondo me, quello là è stato un po' un brodo allungato di un qualcosa che. Però è appunto per questo. Cioè, nel senso, avendo io questa mia piccola convinzione, lo senti che ne pensava Giuseppe. Sì, giusto. Allora, io non ti posso dare, diciamo, non ti posso confermare al 100% che si trattasse di un'espansione riciclata, tra virgolette, quindi una specie di Awakening 2 praticamente, però effettivamente quest'idea la dava. Propenso di più un po' verso il fatto che abbiano avuto come sempre dei tempi di sviluppo molto ridotti, per cui sono stati costretti a un certo punto a chiudere lì, cercare insomma di quagliare, come suol dire. Chi l'ha fatto? Scusa, fare? Ti interrompo perché la domanda che ti faccio è questa, cioè sì. Non sta scritto da nessuna parte che il tempo di sviluppo è 11 mesi dopo il gioco precedente. Cioè, se tu guardi per esempio un gioco come Uncharted, e quindi non stiamo parlando di un gioco potenzialmente più complesso come Dragon Age, non parlo tecnicamente ma parlo strutturalmente dal punto di vista delle regole del gioco e tutto quanto, in realtà ogni quanto usciva ogni 2 anni poi fondamentalmente. Sì, Uncharted ogni 2 anni. Okay. Circa, sì. E la stessa cosa vale per tanti giochi, insomma, che più o meno avevano, che ne so, una trilogia. Stessa cosa succedeva pure con Mass Effect, uno in due anni e mezzo. Ma poi parliamo che prendiamo sempre il motivo per cui hai fatto uscire un gioco dopo un anno. Ricordiamoci, scusa Simo, che il primo ci ha messo 5 anni per uscire. Ok, però lì è magari è la costruzione del framework, di tutta la struttura del gioco, del motore, quindi cioè, bene o male, cioè, più o meno insomma ci può anche stare il fatto che il primo possa essere costato, perché comunque loro prendevano una struttura di programmazione, era quella di KOTOR, e l'hanno dovuta espandere per le nuove generazioni. Quindi io immagino che loro abbiano avuto anche un problema dal punto di vista temporale per sviluppare questo tipo di discorso. Però non stava scritto da nessuna parte che Dragon Age 2 doveva uscire un anno dopo, capito? Cioè, questo ma non neanche un anno e qualche mese, cosa del genere. No, io dico che comunque per creare proprio un gioco di ruolo con quella struttura è difficilissima come operazione da fare, perché devi soprattutto per quanto riguarda la parte a monte, cioè solo il bilanciamento delle classi o il codex, che è gigantesco, è un lavoro megalitico, perché devi davvero creare proprio un mondo con una struttura, con delle regole che sono, insomma, diciamo quelle di Dungeons and Dragons, che sono enormi, e devi farle interagire con un'intelligenza artificiale creando così un lavoro, una commistione di cose che è gigantesca. Quindi, come dire, io preferisco che ci mettano 10 anni a fare il gioco, che però me lo facciano uscire cazzuto, ecco, bel gioco, piuttosto che appunto un esempio come il secondo. Cioè il primo, dal punto di vista di, della rinascita dei giochi di ruolo vecchio stampo, tra virgolette, basati su Dungeons and Dragons con quelle regole lì, è un ottimo esempio. Ecco, questo anche per far capire che non è che stiamo, noi non è che prendiamo un argomento e lo critichiamo, cioè ah merda merda merda ciao. Penso che siano tutti concordi sul fatto che il primo resti comunque un grande gioco nel suo genere. È un gioco solido, cioè perlomeno quello che deve fare lo fa bene. È innamorato di Dragon Age, ma infatti cioè, con pregi e difetti della cosa, però rimane un'ottima esperienza ben bilanciata con delle regole che sono difficili da mettere assieme in quell'ambiente, perché non è il gioco di ruolo cartaceo dove più o meno magari te la puoi cavare con delle aggiustatine. Qui non c'è il, non sono le regole della casa, tra virgolette. No, non esiste l'improvvisazione, non c'è improvvisazione dell'intelligenza artificiale. Esatto, quindi cioè, non è che al master gli dai una comitata e dici no dai, questo non si può fare. Ma che cazzo stai a fare? Devi creare un mondo, poi ti ritrovi a scontrarti con i giocatori, con i giocatori di ruolo. Cioè stiamo parlando di personaggi tipo me, capito? Quindi cioè delle... ma ne vogliamo cioè capito, cioè proprio delle persone becere, cattive, che sono pronte a saltarti addosso se vedono che hai sbagliato quella regola che hai sbagliato quell'ambientazione o quel mostro al primo momento che capita. Quindi io mi rendo conto che possano avere uno sviluppo lungo, ma in questi casi forse è meglio uno sviluppo lungo, perché se poi devi farmi uscire un seguito così deludente, quando solitamente i seguiti dovrebbero essere almeno tendenzialmente almeno a livello del primo, se non meglio, non è sempre idealmente così, non so, tanto per dire idealmente almeno nella concezione comune. Poi è chiaro che ci sarebbero centinaia di esempi dove anzi solitamente i seguiti tendono ad essere sempre più deludenti, perché probabilmente uno si aspetta qualcosa di meglio, ma invece magari si ritrova la stessa esperienza con due cazzatine in più. In questo caso forse neanche quello è quello che forse è mancato al secondo Dragon Age, per quanto mi riguarda. Troppo poco tempo, un lavoro sbrigativo, quando invece è uno di quei giochi dove devi sederti e pensarci per ore con un team di persone. È stato un lavoro secondo me sbrigativo sotto ogni aspetto, non solo appunto quello semplicemente di game design, ma anche appunto della storia, per quanto diciamo la vicenda politica mi sia comunque piaciuta, però alla fin fine era la stessa cosa riproposta diciamo in maniera più ristretta, perché comunque per esempio dello scontro tra i Templari e i Maghi fondamentalmente c'era già quella parte anche in Origins, se vi ricordate, quando andavi alla Torre del Circolo per reclutarli, quella tematica era stata già affrontata, là è diventato praticamente l'apice del... Di Dragon Age 2 fondamentalmente. Come difficoltà io mi ricordo che Il primo, insomma, era bello tosto da giocare, cioè dovevi comunque utilizzare, come che non giocavi con facile, dovevi utilizzare una certa strategia per riuscire a battere i nemici. Qui io me lo sono giocato al livello difficile, tranne in un'occasione quando c'era da ammazzare un golem, che mi sembra che fosse un golem, non mi ricordo, e comunque ti buttava addosso l'elettricità dentro le caverne e dovevi nasconderti dietro i pilastri quando facevi gli attacchi. Il golem, quello alla fine del primo atto, mi sembra una cosa, quello l'ho dovuto abbassare al normale, perché cioè ci ho provato 40 volte, ma quando mi nascondevo, a parte non si muoveva le personaggi, non so perché, ma quando poi si nascondevano comunque venivano colpiti uguale, quindi ma guarda, secondo me Marco la difficoltà in generale in Dragon Age 2 sta più nel discorso che è una cosa che secondo me nella transizione dal primo al secondo hanno sbagliato totalmente. Il fatto che per esempio nel primo tu i nemici sulla mappa li potevi vedere, quindi li vedevi quando ti caricava quello l'hanno rimesso pure nel 2, però come cosa opzionale, cioè ai livelli più alti c'è il fuoco amico, mentre invece ai più bassi non ci sta, e questo comunque è sbagliato perché il posizionamento tattico è sempre una cosa che devono considerare. Però se ti ricordi, nel primo tu avevi proprio i nemici, li vedevi che ti caricavano dall'alto, qua invece nel 2 sembrano tipo dei fottuti ninja che a un certo punto si teletrasportano a caso anche magari, che so, alle spalle del mago, che no, quindi poi, sta sulle retrovie. Quando compariva Logre al primo erano bei cazzi, insomma, cioè alla fine posso dire una cosa? Sto finendo, però no, aspetta perché poi mi ascolto, scusa. Io in Dragon Age 1, quindi Dragon Age Origins, ho visto cioè nel senso è stato il momento più divertente, nel senso proprio da ammazzarmi dalle risate che io abbia mai giocato ad un videogioco. Quando ti lancia inferno dentro una casa, dentro una stanza, e poi si chiude la porta stando fuori. Allora ci stava in questa stanza dove ci stavano soldati e cani, e quindi poi morivano tutti e tu stavi fuori e non avevi fatto un cazzo, ed era una cosa, cioè si giuro, proprio i lacrimoni quando stavamo con Marco, i lacrimoni da ridere, perché cioè... dicevo, insomma, comunque quando compariva Logre il primo erano bei cazzi, insomma. Nel secondo praticamente alla fine che cosa si faceva? Correvi, aspettavi che il nemico di turno cercasse di colpirti inutilmente, gli giravi intorno fondamentalmente. Io ho sempre utilizzato questa tecnica, cioè giravo intorno e poi menavo, perché tanto prendeva come soggetto degli attacchi nemici un personaggio alla volta. Tu individuato quel personaggio, lo facevi correre mentre gli altri lo menavano, e ovviamente riuscivi a non subire troppi danni, quindi era veramente una cazzata, tranne il golem, che quello, vabbè, quello cioè, attacchi di massa, quello era un po' difficile, però in effetti come difficoltà lascia molto a desiderare. Come dire, in parole povere, torno a Giuseppe, cosa avete trovato, quali sono stati i difetti del secondo? Cioè cosa proprio non ti è piaciuto, cosa hai trovato un errore madornale in certi casi? Allora, vabbè, a parte le cose più classiche che fondamentalmente abbiamo detto finora, quindi una difficoltà basata, diciamo, scesa più verso il basso, scalata verso il basso, con anche un riciclo degli ambienti fondamentalmente. Le altre cose che non mi sono piaciute sono innanzitutto quella mass effectizzazione dei dialoghi, perché per esempio io adoravo i dialoghi di Dragon Age 1 perché erano, diciamo, molto più realistici, non sapevi effettivamente dove potevi andare a parare, cioè a me è capitato per esempio facendo una scelta sbagliata quando c'è stato lo scontro con Loghain di cacciare via dal party Alistair, perché se cercavo un compromesso tra tutte le parti, allora quello poi dice no, vabbè, ma se fate diventare Logan un custode grigio, allora io me ne vado, che sto a fare qua? E queste cose ovviamente può venire arrestato invece vabbè in Dragon Age 2 praticamente hai la solita ruota dei dialoghi dove sai che la risposta, quella in basso a destra, è quella da stronzo, e quella in alto a destra è quella da santo fondamentalmente, questa cosa non mi è piaciuta perché rende, diciamo, toglie quel senso di come si dice, con disbelief di disillusione, sì, ti ha, esatto, ha tolto, esatto, la magia del gioco, diciamo. Esatto. È come quando tu praticamente vedi dietro un il teatrino delle marionette e vedi i fili praticamente del burattinaio, esatto, che li sta muovendo, no? Vabbè, poi ti ho detto pure le, per esempio, addirittura non volendo come sempre citare il solito Mass Effect 3, e con questo lo chiudo e la ripasso a Luigi, ma se vi ricordate Dragon Age 2 è stato anche quello che ha introdotto, e questo mi ha fatto veramente incazzare, le fetch quest che poi abbiamo ritrovato pure in Mass Effect 3, quelle del tipo prendi gli oggetti, poi ritorni dal quest giver, dal PNG, e gliela consegni così, senza neanche un minimo di dialogo, di storia, di niente, se vi ricordate. Quella che tipo trovavi un borsellino così esaminando nel mercato e già ti spuntava la missione, valla a riconsegnare al suo legittimo proprietario. Sì, poi tra l'altro nome e cognome come se fosse scontato, Chiara. Cioè, sì. Ma poi quest'altra cosa... Il discorso delle origini, quella è stata proprio la cosa peggiore, perché secondo me anche il bello di un gioco di ruolo, specialmente sotto l'ottica che proprio tu interpreti un ruolo non solo del tizio X, quindi dello Shepard di turno, ma proprio ti fai il tuo personaggio, e hai il fatto di poter scegliere non solo la classe ma anche la razza, fondamentalmente, che in un fantasy non secondo me ma questo, sì, vabbè, questo è il secondario, perché però, anche nel secondo si poteva fare, però questo pensa, io infatti l'ho chiesto a Giuseppe l'altro giorno, sì, eravamo in una conversazione, sì, sì, fra di noi, no? Dicevo, ma tu preferisci comunque più il gioco alla Shepard, cioè nel senso alla Mass Effect, dove comunque c'è un personaggio, cioè è vero che tu te lo puoi modificare, però c'è un personaggio che comunque è predefinito, perché, esatto, narrativamente lo è, cioè nel senso è fondamentale che lui sia, sì, questo, o un gioco di ruolo tradizionale dove praticamente tu devi comunque costruirti il personaggio da zero, quindi è spersonalizzato da qualsiasi tipo di comportamento, abitudine, anche voce, no? Perché ovviamente, cioè, i personaggi che tu costruisci non parlano, fondamentalmente, che dovrebbero dare quel senso di immersività in più. Ovviamente Giuseppe adesso magari dice anche dice la sua, però io mi sono trovato d'accordo su, cioè, quando il gioco era Baldur's Gate, ok? Cioè nel senso, comunque il fatto che il personaggio fosse il tuo, tu ti immedesimavi, perché, esatto, in realtà non c'erano dialoghi, cioè non c'erano le persone che parlavano fra di loro, voci o cose del genere, sì, no? E invece in un gioco che ha un'impronta cinematografica come Dragon Age, io ho preferito paradossalmente molto più il secondo, dove c'era un personaggio che era predefinito esteticamente, già deciso, con una storia sua, diciamo così, con un suo background, con una sua capigliatura e con una sua voce, che era questo parte... è quello che c'avevi tu, perché il mio sai che era sfrontato nel senso delle supercellule, la mia scelta, però comunque su Dragon Age 2 loro hanno fatto quello che hanno fatto su Mass Effect, comunque personaggio, sì, sì, c'aveva una voce, c'aveva, sì, un modo, certo, di parlare, c'aveva comunque una cosa che, sì, volendo potevi anche dare in altre classi, cioè era parte integrante, sì, sì, vabbè, però era parte integrante della scena cinematografica, sì, questo, sì, sì, dire. Però guardami, là hanno però poi, cioè, ti hanno dato, sì, hanno fatto certamente il lavoro encomiabile che di voler avere un personaggio, diciamo, comunque principale, forte, carismatico, però poi dal lato della sceneggiatura hanno peccato tanto, perché per esempio c'è differenza da giocare in Dragon Age 2 tra un Oak mago piuttosto che un Oak guerriero o ladro, fondamentalmente, perché anche a livello di concezione della storia, giocarlo dal punto di vista del mago ha più senso in tutto quel contesto dove tu, diciamo, cerchi di fare da pacere tra le due fazioni, piuttosto che il guerriero o il ladro, proprio, che insomma è un tizio così capitato a caso che si trova in mezzo a questi due. No, invece io, tra l'altro, dalle cose che ho trovato negative, a parte quello che abbiamo già citato, anche la massa effettizzazione anche qui, sì, delle armature, cioè, sì, praticamente looting zero, tu puoi soltanto prendere miglioramenti per le armature degli altri, esatto, mentre potevi personalizzabile, c'era, cioè, soltanto l'armatura del tuo personaggio principale, cosa che, sì, veramente forse si ritorna ai vecchi giochi dove c'erano personaggi con le armature fisse, però alla fine nel 2011 nel cazzo mi stai a dire, cioè, no, esatto, è proprio, cioè, risparmia e compari, come diceva da queste parti. Quindi hanno cercato proprio di rendere la cosa molto carina. E poi, diciamo, una chicca che a me è dispiaciuto un sacco è il fatto che dal primo al secondo hanno rimosso come personaggio giocabile il cane. Ah, il Mabari. Sì, il Mabari, dai, che comunque è vero, non l'ho mai usato, Mi è passato anche un po' sulle palle, però. Sì, io l'ho usato, io invece l'ho usato sul primo. Vabbè, io qualche volta, però giusto perché quando andavo a fare le esplorazioni prendevo il cane, gli facevo prendere la roba e poi lo rimandavo via. A me non dici niente. E vabbè, insomma, alla fine. No, e poi comunque, scusa, tra il primo e il secondo, secondo me ci sono, cioè, mentre il primo fondamentalmente tutti i personaggi erano comunque molto interessanti, nel 2 quelli, diciamo, effettivamente carismatici, a parte Hawk, diciamo, sono pochissimi, cioè sì e no, nel mio caso si salva solamente Varric e Anders fondamentalmente. Beh, tutti, cioè, gli altri sono delle comparse così, il nano, la ladra che potrà, esatto, appare pure Varric, vabbè, Varric, Isabella, se glielo vuoi pure mettere pure a livello di storia, perché Anders, perché il mago, quello ribelle, la nana, la ladra appare pure nel primo, poi tra l'altro sì. Sì, era un personaggio minore. Poi vabbè, c'è stato pure questa cosa insegna a fare una specializzazione, se non sbaglio, il duellante. Ma Anders invece che espansione stava? Anders è stato introdotto in Awakening. Era un personaggio principale di Awakening e poi è ritornato nel 2. Bravo. Bene. E poi sì, Visto che stiamo sì, parlando del 2, oltre a questo, io chiedo, adesso parto da Luigi. Luigi? Sì. Sì. Secondo te quali sono state le cose che del primo che hanno abissato ancora di più il secondo? E unisco anche la domanda successiva: cosa era salvabile del secondo? Cioè, quali sono state le migliorie apportate dal secondo gioco che erano, quindi che sarebbero dovute essere conservate in questo caso? E cosa del primo ha quasi peggiorato la situazione del secondo, nonostante, per insomma, non dovrebbe essere così. Dunque, la cosa bella è che, parlando sia con Giuseppe che con Simone, ho detto che io non ho giocato né il primo né il secondo. Io sono qui in veste di ascoltatore per farmi la cultura su queste splendide opere della BioWare, ascoltando alcuni luminari e cultori, quale voi siete. Soprattutto Marco Sato. Quindi, mi piace essere un luminare. Esatto. Sei un illuminato. Ma fate caso. Però posso dire. Fate caso con quanta devozione ho ascoltato la tua domanda. Come sei in realtà abbiamo detto fino adesso che tu li hai giocati, quindi veramente fingere. No, in realtà abbiamo detto che tu sei stato assente per tre quarti della trasmissione perché in realtà stavi giocando a Dragon Age. Esatto. Sì, a metà del secondo adesso. Sì, sto finendo. Sì, appena a metà del secondo. Però con una candida faccia tosta è venuto qua a dirci: io non ne so un cazzo, che bellissimo, io lo apprezzo e lo ammiro adesso. Allora, li giocherai tutti e due insieme poi. Allora, no, dunque, io invito tutti quanti a vedere la meravigliosa video recensione di Giuseppe nel suo canale, cioè nell'opinista videoludico, perché è fatto davvero bene sul primo Dragon Age. Sul secondo non saprei pronunciarmi. Ho giocato però l'hai visto un altro che ha giocato la demo. La demo obiettivamente non penso che ti abbia invogliato a giocare pure al secondo. L'avete giocata in 8, ma va bene. No, mi ha dato invece una voglia fottuta di giocare a Skyrim, per dire, quando sarebbe uscito. Cioè, ho visto una sorta di legnosità un po' del tutto. Diciamo che questo era proprio uno dei pochi casi in cui la demo è fondamentalmente uguale al prodotto finale, perché comunque Dragon Age 2 è fondamentalmente così. Bim bom. Avvisiamo i gentili ascoltatori che per motivi puramente venali questa trasmissione passa da BioWare a Bethesda. Bethesda, BioWare. Grazie. Allora io ripongo la domanda che ho posto a Luigi, scusa, ti ho interrotto, volevi concludere? Prego. No, fai. No, volevo chiedere a Marco allora che cosa, quindi la domanda che ho fatto prima a Luigi, quindi cosa del primo episodio ha buttato giù il secondo e viceversa, cosa era salvabile dal secondo anche in vista di un terzo, ecco, di un terzo capitolo. Guarda, allora la trama tutto sommato nel secondo si poteva anche salvare, non che mi abbia solleticato più di tanto, però tutto sommato poteva anche essere carina. Secondo me era più da mega espansione che da storia a sé stante, anche perché io per il secondo mi aspettavo più qualche cosa inerente ai custodi grigi e comunque a un ritorno dei Darkspawn, magari non ambientato direttamente un anno dopo, due anni dopo in contemporanea, ma ambientato, non so, 50-60 anni dopo. Ma ci stanno all'inizio. Sì, però esatto. Non c'è il ritorno dell'arcidema, c'è cioè proprio sono da contorno. No, ma guarda, ma vedi che comunque, vabbè, vero che magari ne parliamo anche dopo, però Dragon Age non è come, cioè Dragon Age non sta ai custodi grigi come per esempio Mass Effect sta ai razziatori. No, quello è chiaro. Non è diciamo Dragon Age incentrato tutto sulla battaglia tra i prole oscura e i custodi grigi. Tant'è che infatti uno dei motivi che io diciamo giustifico anche il cambio di personaggio dal primo al secondo è il fatto che in realtà in Dragon Age diciamo che l'intento è quello di farti vedere capitolo dopo capitolo l'evoluzione del mondo e presentarti anche nuove zone geografiche. Sì, ma infatti secondo me diciamo è proprio il territorio, la storia il vero protagonista della saga di Dragon Age, non è un unico personaggio o un'unica fazione. No, ma infatti non cioè, in come tutti i fantasy ben strutturati, esatto, è la parte sociologica e geografica. Esatto, quindi dal secondo Marco, che cosa, cioè tu salveresti solo l'ambientazione, cioè l'ambientazione, ma del secondo fondamentalmente no, ma neanche, perché poi alla fine Marco dai dillo, allora ha fatto cagare. Allora aspetta, salverei l'unica cosa che i salverei. Lunari, dai, dillo. No, questo no, salvo. Allora questo qua, lì il film è mega cazzo. Salverei il diverso design, questo sì, perché Kunari e Elfi sono stati un po' più diversificati, cosa che un po' mi sembra di mi dà fastidio, non fastidio, mi incuriosisce. Perché voi sapete bene che tranne Marrone sapete bene che i Kunari nel primo non hanno le corna, e il secondo invece ce l'hanno. Perché si vede che nel frattempo quelli stavano in guerra e voi stavano a trobare e le corna crescevano. No, poi hanno, è stato bellissimo perché sono diverse giustificazioni. Giuseppe, tu mi hai detto, mi hai confidato quella lì del fatto che essendo in missioni speciali si segavano. Ma io invece ho letto anche altri forum in cui dicevano che in realtà di Kunari ce ne sono due tipi, quelli con le corna, esatto, e quelli senza le corna, che quelli senza corna sono quelli più fighi e sono quelli che mandano, sono quelli che mandano, sposati ancora, esatto, quindi... e sono quelli che infatti mandano in nava scoperta mentre gli altri stanno a fare altro. Giuseppe, no? Posso dire una cosa? Sì, a me sembra una gran cazzata questa. Sì, ma cioè non li fai vedere tutti e due anche o non li fai vedere a questo punto, sì, cioè assieme. Non è che ti inventi dopo, no, ma c'erano quelli dell'altra razza, boh, cioè. Ma infatti non so assieme, cioè, nel senso che sul primo episodio non c'hanno le corna, sul secondo episodio improvvisamente. Sì, ma se poi ti dicono che sono di due razze diverse, cioè sono due tipi di Kunari diversi, anche... a questo punto cioè te ne vengo anche un po' a fare in culo, dai, cioè sinceramente. Però scusa Marco, se sì, permetti, cioè tu vedevi la serie classica di Star Trek, i Klingon non c'avevano la cresta, poi nei film c'avevano la cresta, poi hanno fatto tutte le altre serie, poi hanno fatto Enterprise e hanno giustificato il perché nella serie classica non c'avevano la cresta. Sì, ma lì c'era il problema che tu c'avevi il trucco per farlo il Klingon una volta, poi cosa è inventato dopo, alla fine per giustificare, per non creare un buco narrativo, hai creato questa altra cosa qua. E se vede che quelli erano arrivati al però punto qui, cioè, penso che un paio di corna in testa parla della produzione di due anni due di differenza, dai, cioè due cose che sono state fatte in contemporanea, cioè non mi puoi dire che lì si sono sbagliati, dico cioè non lo so, io non capisco perché tu sostieni che siano due team diversi, secondo me un sospetto ce l'ho. Beh, non è improbabile che si parlassero manco tra di loro, no, stavano proprio due parti geografiche diverse. Quindi è probabile, perché cioè, ma anche gli elfi, stessi elfi, avevano un design facciale molto più simile all'umano medio, quindi con la fossa nasale, con il naso diciamo più caucasico. Invece nella nuova versione c'hanno un naso schiacciato, praticamente il naso e fronte è una cosa sola. Non so se ci avete fatto caso. Sì, infatti erano pure piuttosto brutti. Bruttarelli, sì. E quindi c'è qualche cosa che... Però insomma alla fine hanno la vedo meglio quelli fatti nel secondo capitolo, perché bene o male sono stati un po' più diciamo personalizzati. Però del resto, cioè io salvo soltanto le cose, le features del primo, quindi personalizzazioni delle classi, delle razze, delle armature, dei componenti, il sistema di combattimento un po' più di Miva, esatto, sì, quelli che venivano lanciati. E insomma del secondo bene o male alla fine non sapere quasi niente, proprio niente. Simone, tu invece mi sembra che qualcosina almeno gliela vuoi concedere al secondo, o no? Allora, prima di tutto nel secondo Dragon Age c'è una femmina degna di essere trombata. Isabella. a differenza del primo Dragon Age dove... Morrigan. Sì, vabbè, penso, ok. Corona, però Morrigan, cioè, non è che... Cioè, volete, posso aprire una parentesi su Morrigan? Isabella, cioè, è sexy all'ennesima potenza. Posso aprire una parentesi? Che non so se la tocchiamo dopo. Ma no, tocchiamo niente. Toccatevi niente. Dopo, dai. Parlando del finale di Dragon Age il primo, no? Chi è che ha giocato come donna? No, io non gioco mai e giochi come donna. Io l'ho fatto come terzo personaggio, però tipo già era solo perché però volevo fare la provarci con Alistair fondamentalmente. L'hai finito come donna, però. Era per altri motivi, giusto? Diciamo. Sì, sì, sì. L'hai finito come donna, giusto? L'hai finito come, cioè, con personaggio donna? Sì, sì, avevo fatto un'elfa maga. Che sì, cacchio sì. Cambia? Perché tu alla fine, cioè, c'hai da Morrigan, se sei uomo, la possibilità di sopravvivere allo scontro finale, no? Sì, sì. Ce l'hai anche una donna? Ma infatti, cioè, se tu non vuoi sopravvivere, ma non puoi, o nel caso sei uomo, non vuoi fare sesso fondamentalmente, Morrigan ti suggerisce: guarda, vai a convincere Alistair che faccia. Insomma, Alistair prende il tuo posto con Morrigan. Hai capito, Alistair? Ah, hai capito. Se poi ti rifiuti anche in quel caso, ti dici: no, guarda, non mi fa troppo schifo. Oppure Alistair è mio, giù le zampacce. Allora, in quel caso, sei costretto poi a quell'esito brutto. Allo schiatta morto. Esatto. Ma vabbè, quindi poi cambia tutto, perché insomma, in realtà, in teoria, qualcuno diceva che nel terzo episodio ci sarebbe stato probabilmente il figlio di Morrigan con il però protagonista. No, lì è troppo cioè, però è impossibile, perché in teoria, no. Cioè, non è detto che tu hai seguito il corso maschio, ti sei trombato Morrigan, se è sopravvissuto o meno, quindi potesse anche non essere sopravvissuto e aver compiuto il gesto. Beh, oddio, con tutto quello che hanno detto, vabbè, potrebbero anche metterlo in mezzo facendo finta di niente, quindi sì. Beh, magari in Dragon Age 4 comunque, al di là del giocarlo femmineo, Simone, quindi stavi dicendo comunque, te cosa parte, comunque, cioè, cosa terresti del duo al di là di Isabella, che è sicuramente la al di là della fregna, diciamoci la verità. No, perché poi è morona, capito? È scura di carnagione. Io mi sono rimorchiato la elfa, porco dura. Che schifo. Che schifo. E ti devo dire la verità, io comunque l'ho gradito. Cioè, nel senso, non ho apprezzato. Secondo me, ecco, la cosa che non ho apprezzato è il fatto che potenzialmente ha rovinato la trilogia. Nel senso che, essendo stato comunque un flop, perché comunque la gente è rimasta abbastanza incazzata. Chiaramente potenzialmente poteva far chiudere proprio il progetto. In realtà mi sarebbe piaciuto una trilogia fantasy, così come abbiamo avuto una trilogia di fantascienza di un gioco che non nominiamo, e quindi l'avrei veramente apprezzato. Il problema è che questo, secondo me, ha veramente messo in discussione tutto, il secondo, perché ecco, mo adesso il 3 non si sa quando uscirà, se uscirà sta generazione, la prossima, no, dovrebbe essere questa, voci, diciamo, le prime voci dicono fine dell'anno prossimo, però secondo me prima dei primi mesi del 2014 non lo vedremo. Infatti neanche io. Ma va bene, eh? No, va benissimo. Vuol dire che ci stanno a lavorare sopra, insomma. Perché se no so bestemmie tante. Per il resto, se me l'avessero venduto a 20 euro come DLC, probabilmente sarebbe stato. La differenza sta tra l'essere un DLC capolavoro e un gioco mediocre. E lì devono vedere loro se sarà senso. Hanno le palle di fare. Cioè, la mossa di DLC capolavoro è rischiosa da un punto di vista del mercato, secondo me, perché comunque ti porta. Cioè, tu magari hai lavorato quel DLC però, quanto un gioco normale di alto livello. Però è rimane un DLC, quindi rimane comunque troppo dipendente dal gioco. Potrebbe risultare come l'espansione di un prodotto vecchio in certi casi, anche se è bellissimo. Però allora lì ti chiedono perché non hai fatto un gioco nuovo, oppure perché non l'hai fatto prima, visto che tanto la tecnologia è arrivata al suo limite per quanto riguarda, nel caso delle console. Ma sì, potevano fare un Dragon Age Brotherhood, sì. Tanto per quindi una cosa del genere e via. Poi partivano col secondo nel 2014. Io voglio fare una domanda a Luigi invece. Per quanto riguarda il seguito, tu te la sentiresti di giocare? Che giocherà sicuramente. No, tu te la sentiresti di giocare a Dragon Age 3 Inquisition senza aver giocato gli altri due, sapendo comunque com'è la storia, così, day one praticamente. Pensi che te la sentiresti? Beh, se diventa qualcosa tipo l'impatto che ha avuto Metal Gear Solid 4 su chi aspettava la killer application per PlayStation 3 finalmente e poi non ci ha capito un cazzo, in quel caso no, perché dico non ci capisco niente, devo recuperare i primi capitoli. Se invece magari è un prequel dove non ci sono punti di contatto col tutto, tipo che ti posso dire, uno Snake Eater, un Metal Gear Solid 3 Snake Eater, allora ci può anche stare magari, che anzi mi prendo anche il meglio di Metal Gear, perché dopo aver affinato tutte quante le dinamiche di gameplay e la struttura proprio del gioco, se ne escono con un prequel che è un capolavoro, in questo caso sì, da tutti i punti di vista, allora potrei dire ma sì, che me ne frega sì, dei primi capitoli. Secondo me, però questa è una cosa che abbiamo magari detto anche sull'altro gioco, quell'altro che non si basta nominare, cioè in realtà i giochi BioWare hanno una timeline che è di default più o meno quella, e poi sono gli eventi di contorno o varie situazioni quelle che cambiano realmente, quindi cioè fondamentalmente tutte queste grandi modificazioni o questo non capirci se ti approcci al terzo rispetto al primo o al secondo, secondo me non ci saranno, cioè non ci sarà proprio questo rischio. Penso che comunque sì, secondo me sì. Ma secondo me invece ci sarà proprio una reunion tra Custodi Grigis e Sopravvissuto e Occa, perché sono due personaggi che poi spariscono. Sì, però ogni gioco come questo, e soprattutto quando passa tanto distacco tra il terzo, il secondo e il primo, secondo me partono per essere giocati anche per la prima volta. Quindi comunque secondo me, ti ripeto, no, anche perché poi comunque no, ma non fai un gioco che può essere giocato solo da chi ha giocato l'altri due, cioè non esiste. Beh, è ovvio che alla fine lo puoi giocare anche singolarmente, ma è normale che ci saranno comunque delle, sarà un diretto seguito di queste bello, due. Si legge benissimo, perfetto, giallo su bianco, io lo consiglio come futuro standard per i libri. Chiedo venia, ho sbagliato. Vabbè, scusa, ti ho interrotto. No, cioè, secondo te, ecco, la domanda è questa. Ponendo il punto, anch'io immagino che il prossimo Dragon Age sarà collegato, cioè sarà un seguito degli altri due in realtà. Però tu conosci bene la storia, tutto sommato, ma non ci hai mai giocato. Te la sentiresti? Io come io personalmente tu Luigi, sì, Luigi, che non è Metal Gear, tranquillo. No, non sono portato a farlo per un motivo, perché è un gioco fantasy, comunque di ruolo fantasy. Se fosse stato di fantascienza, che so, un Deus Ex per intenderci, ho giocato il terzo, anche se magari è un prequel del primo, volentieri, perché mi piaceva, sono suggestionato dalla storia, dal setting, dall'atmosfera e da tutto il resto. Per il fantasy invece no, il fantasy io non ho un rapporto abbastanza idiosincratico con quello che è il gioco fantasy e la cultura anche del fantasy che ci ruota attorno. Per cui lascerei perdere senza credere di aver perso chissà che cosa. Lui ti aspetto sotto casa, spaccio la macchina. Purtroppo ho questo, chiamiamolo, problema. Non riesco ad affezionarmi al gioco fantasy. Lo trovo molto più limitato rispetto a un gioco di fantascienza, perché deve attenersi a degli stilemi che anche la fantascienza, per carità, però molto più rigidi. E non riesco a seguire il racconto narrativo a entusiasmarmi più di tanto quando c'è in mezzo il fantasy. Mentre la fantascienza, nonostante i cliché, mi arrapa ancora. Ma questo tu dici, dici solo nel videogioco? Aspetta, scusa, poi dopo. Ma dici solo nel videogioco in generale? Cioè proprio come tipologia di narrativa? In generale. Non in generale. Niente, io non spacchiamo tutto quanto. Non riesco per esempio a apprezzare Il Signore degli Anelli, ce l'ho in Blu-ray, l'ho preso perché cavolo, è un classico. Ma non lo rivedrei tante volte quanto potrei rivedere. Ti piacerebbe più Il Signore degli Anelli di Saturno? Sarebbe stato. Sì. No, vabbè, sul film Signore degli Anelli posso darti ragione. Vabbè. Mentre magari sul libro. Ringraziamo i nostri telespettatori per aver ascoltato, insomma, di Trilogia Videoludica. Noi chiudiamo qui, è stata una bellissima esperienza. Speriamo che queste tante puntate che noi abbiamo realizzato vi siano piaciute. Grazie, la Bayer. Luigi ha deciso di spontanea volontà di non partecipare più, non sappiamo perché. Si è incatenato. Sì, cioè quello è il problema. Una partecipazione costante. Sì. Allora, In questo caso chiedo a Giuseppe invece, tu cosa ti aspetti dal prossimo Dragon Age? Cosa vorresti rivedere, cosa non vorresti rivedere, o cosa, cioè, c'è qualcosa di nuovo che ti aspetti? Allora, che nuovo ti interessa? Come ambientazione ci piacerebbe rivedere Isabella prima di tutto. Sì ovviamente. No, ma anche Leliana non mi dispiaceva, era male, però Isabella sì. Anzi, sono sicuro che vabbè, Leliana ci sarà certamente, sì, perché vabbè, si vedeva anche alla fine del secondo, se mi ricordo bene. Era il capo dell'Inquisizione là, ovviamente, quello che stava a far casino. Sì, ma infatti secondo me Inquisition, già lo dice anche il nome stesso, secondo me sarà ambientato comunque ad Orlé e avrà, che sarebbe quella, l'equivalente francese della Francia del Tedas. Che sarebbe il mondo di Dragon Age, e comunque avrai a che fare con uno di questi, diciamo, mi pare cercatori della verità, venivano chiamati già anche nel 2, cioè queste qua, diciamo, al servizio dell'imperatrice di Orlé, che devono insomma vedere che cosa sta succedendo a causa della rivolta tra maghi e templari. Fondamentalmente mi aspetto una cosa del genere. Mi aspetto ovviamente che ritorni tra i personaggi principali, cioè personaggi di contorno, la madre di Morrigan, cioè l'abbiamo liberata ormai. Flemeth, così come altri personaggi che, diciamo, a me facevano simpatia, erano i due nani, specialmente quello che mi pare si chiama Sandal. Esatto. Sì, che poi c'è un mostro quello, cioè sì, infatti secondo me lui avrà qualcosa a che vedere. Già nel 2 c'è un mini easter egg che, se tu, diciamo, ci parli in continuazione quando sei, diciamo, a casa tua, nella tua villa, ti fa una specie di profezia. Non so se questa cosa l'avevi visto. No, mai. Che ti dice? Cazzi tua, enchantment. Oppure te faccio l'enchantment. Scusate, posso fare una domanda? Perché io forse, sì, che a un certo punto vuol dire che non ho capito niente. Tanto sì, noi spoileriamo qua. Sì, sì, sì. Ma la madre di Morrigan, che si trasforma in drago, noi ammazziamo il drago, lei non muore? No. Ma te lo spiegano nel 2, che può tornare, lei può tornare. Esatto. Nel 2 lei ti fa fare una cosa, salva Hawk in cambio di un certo favore, che di fatto sarebbe il suo asso nella manica per sopravvivere. Cioè, aveva già pensato in origine che aveva già, diciamo, considerato l'eventualità che Morrigan potesse vendicarsi, e quindi aveva trasferito una parte della sua anima in un amuleto. In questa maniera lei, diciamo, anche se quel drago moriva, la sua essenza continuava a vivere, quindi bastava trovarsi un altro corpo. Hai capito? Eh sì. Cioè, ragazzi, non è fantascienza questa. Qui c'è la clonazione. Secondo te, Luigi, tra la fantascienza e il fantasy, fondamentalmente che differenza c'è? Tu guarda Guerre Stellari, è un ottimo. Che il fantasy è molto più. Fantasy molto più fantascienza, sì, della fantascienza. Guerre Stellari è un fantasy fantascientifico. No, Guerre Stellari è una space opera, è un film fantasy nello spazio, cioè, quindi. Mm-hmm. No, è molto più plausibile una space opera tipo Guerre Stellari. Io non sarei così ardito da fare affermazioni del genere, insomma. Ne potremmo pure fare una puntata, anche se non c'entra niente, e potremmo dire. Cioè, la mamma drago, sì, che diventa l'amuleto, trasforma, sì, i poteri, perché aveva previsto già la trasmigrazione. Cioè, qua siamo su livelli fantascientifici, ma tu pensa al figlio di una divinità che scende sulla terra ed è sia spirito che padre, che spirito c'è. Che... vabbè, qui stiamo andando un po'. No, vabbè, pur condividendo, insomma, questa tua affermazione. Stefano, che gioco era? Guarda, non è molto diffuso. È un gioco indie. Era un best seller. È un gioco indie. Sì, era un best seller. Vite Infinite. Era un gioco di carte. Di Dan Brown. Vite Infinite di Dan Brown. Guarda, te lo dico io quello che mi aspetto dal terzo. Sì. Forse è il caso, dai. Ma io dal terzo, fondamentalmente, a parte la bella grafica, non voglio aspettarmi niente. Perché se no, poi tanto alla fine mi aspetto qualcosa che poi non avverrà. E quindi di conseguenza, però c'ho un desiderio mio che non c'entra niente con Dragon Age, e mo ve lo dico, che è quello di avere un vecchio un bel frappè parte, no, alla fragola. A parte quello, no, ha più un tiramisù con la Nutella sopra, se per questo. Se proprio dobbiamo fare una cosa, dobbiamo fare come vedete, perché sennò. Però, dicevo, un bel gioco alla BioWare vecchio stile, tipo KOTOR, però ambientato sul mondo della spada di Shannara. Ma non preso a casaccio, nel senso un personaggio sull'ambientazione del mondo. Io parlo proprio del primo libro della spada di Shannara, dove c'era Sean Holmesford e la spada di Shannara, appunto. Che quello sarebbe stato il sogno della mia vita che nessuno ha mai realizzato. Sebbene pare che un videogioco su Shannara lo fecero, insomma, sì. Forse un'avventura grafica, forse, non sì, ricordo. Sì. Era una mezza avventura grafica con un sistema anche di combattimenti da RPG, un ibrido. Sì, sì. Okay. Pensa che addirittura nella scatola, perché a quel tempo eravamo ancora, diciamo, ai bei tempi di quando ti davano, insomma, un sacco di extra extra fisici dentro la scatola, c'era proprio uno dei romanzi di Dai, grande. Esatto Danny Brooks. Sì e a me piacerebbe, insomma. Però purtroppo vabbè, si fa quello che si può. Ma passando in generale, dato che adesso parlando di BioWare e non di Dragon Age, visto che c'è stata la recente dipartita dei fondatori, quindi di Ray Muzica e Greg, io lo leggerò alla tedesca, visto che Zehuk. Secondo voi questa loro dipartita influenzerà in qualche maniera l'esito, quindi sia di BioWare che soprattutto delle sue serie, quindi in questo caso Dragon Age? Guarda, se posso risponderti io subito, vai, così cioè. Secondo me no, perché secondo me Dagger D che non contavano più una cippa. Secondo me già li avevano abbondantemente, diciamo, ingabbiati, sappiamo da chi. Sono due lettere, è facile. Secondo me gli hanno detto: guarda, devo fare questo, se no per le balle. Se no, a questo punto, tanto la loro bella pensioncina ce l'avevano già, i soldini da parte ce l'avevano, e si sono dati ad altre, proprio ad altri lidi, sono volati verso altri lidi. Cioè, proprio nel campo della beneficenza, uno e non mi ricordo l'altro. Cioè, proprio. Sono fatti i cazzi loro, esatto, insomma, come suol dire. Simone, io la penso tutto sommato come Marco, bene o male. Simone, io penso che BioWare non esiste proprio più da un po'. Non da tantissimo, ma da un po'. Jade Empire. Top. No, secondo me dal secondo Mass Effect già non è più. No, dal primo Mass Effect. Secondo me ancora. No, infatti, da quello in poi. Cioè, quello escluso. Però, ecco, poi. Levato il primo Mass Effect, secondo me BioWare, per come la conoscevamo noi, per come concepivano i giochi, il modo in cui. Vabbè, ma poi questo l'abbiamo già detto, quindi credo anche abbastanza ritornarci sopra. Poi il fatto che ci siano state delle dipartite, poi visto, insomma, che anche Peppe qui ha linkato poi. Ulteriori anche news. Ultimamente c'è stato poi quello che ha inventato. Quello di Gears of War, Cliffy B, che se n'è andato pure. No, di KOTOR. Di KOTOR c'è stato un no, ma anche il lead writer che se n'è andato sempre da BioWare aveva lavorato, oltre che su Star Wars The Old Republic, prima aveva lavorato anche sul primo Dragon Age. Sì, è vero. Quindi, diciamo, io sono fatti a questo punto mi riallaccio e sono d'accordo in realtà più con Simone, cioè che, diciamo, questa perdita è già cominciata da questa decadenza è già cominciata dai tempi di Mass Effect 2 fondamentalmente, cioè non è più la BioWare che noi abbiamo apprezzato con i primi titoli. Quindi Giuseppe, tu dici che non cambierà più di tanto. Anzi, io per la verità faccio anche la Cassandra di turno, e secondo me dopo, cioè, già saremo fortunati effettivamente se questo Dragon Age 3 Inquisition alla fine uscirà, si concretizzerà a prescindere dal successo che potrebbe o meno riscuotere, però secondo me sarà tra le ultimissime produzioni, dopodiché EA, come è solita fare, si è acquistato il brand e chiude lo studio fondamentalmente. Cioè, secondo me BioWare è tra quelle che tra qualche anno potrebbe essere a rischio chiusura. Dici che ormai è in declino, no, non c'è quasi più niente da fare, a meno che non tiri fuori qualcosa incredibile un po' come la Pandemic Studios, che aveva fatto, se ti ricordi, con ultime cose Saboteur, quegli altri giochi che alla fine non erano malvaggi, però le leggi di mercato, esatto. il punto è che rispetto alla BioWare, secondo me, cioè la BioWare ha una storia molto diversa rispetto ad altre software house. Comunque è una software house che è rimasta grossa, che ha prodotto titoli di qualità, che hanno venduto uno stramiliardo di copie, quindi è quasi strano vederla chiudere, almeno per quanto mi riguarda. È strano nel senso che mi fa specie, ma nell'ottica anche qui del mercato ha senso come cosa, perché mi sembra che ultimamente non stiano tirando fuori quello che potevano dare un tempo, ecco, che ormai sia davvero in declino. E Luigi in generale, BioWare, proprio BioWare, non solo Dragon Age. Sì. Sicuramente è stata è capitata col collo fra le maglie delle nuove potenze distributive con l'apporto dell'Electronic Arts. Quindi fondamentalmente si è piegata a quelle che sono le dinamiche di mercato di oggi, che sono distribuzioni più ampie, tempi di lavoro molto più ristretti e allineamento con quelle che sono le feature, come il famoso multiplayer online, che con Mass Effect insomma hanno forzato un po' quella bellezza del primo Mass Effect, che invece era un gioco più introverso, più legato a qualcosa veramente nerd, geek, di nicchia tra virgolette, ovviamente, perché è una produzione planetaria, però che è andata perdendosi via più col tempo. Quindi si risorgerà sicuramente se cadrà la BioWare, ma con delle modalità differenti da come le conoscevamo all'inizio. Mi viene da pensare quasi che potrebbe entrare una frangia di BioWare nelle possibilità di Kickstarter, quindi quello sarebbe una cosa veramente bella, perché tornerebbero a fare titoli diciamo della vecchia scuola, fondamentalmente. Sì, perché non ci scordiamo infatti che Kickstarter oggi risulta ottima proprio per il recupero di quelle che erano delle forme di gioco di un tempo, ad esempio le avventure grafiche, dico una su tutte. Cosa succede? Che il futuro non saranno ovviamente più le avventure grafiche, ma sarà un aggiornamento di quelli che sono i gusti di oggi visti per il futuro, e quindi ci saranno dei giochi di ruolo classici, come potevano essere i KOTOR o altri giochi, dir si voglia, di BioWare tipici delle loro produzioni, che richiameranno totalmente. Questo mi fa pensare, quindi, che poi Luigi vedremo, se ti interrompo, so che è una cosa un po' antipatica, però in realtà se ci pensi la BioWare è la vecchia scuola, è la software house che più di tutte ha costo alla LucasArts, non per il rapporto con Guerre Stellari, ma perché uguale a LucasArts non era tanto i giochi che faceva, ma il modo in cui faceva videogiochi. Cioè, nel senso che BioWare era uno stile di fare videogiochi. Questa era un po' la cosa che e poi, come dicevamo prima con Giuseppe, il fatto, ecco, che magari adesso stanno riuscendo remake in qualche maniera o riproposizioni di vecchi classici, anche strategici a turni, appunto, dicevamo, magari ovviamente aggiornati, no, a quelli che possono essere tecnicamente le soluzioni più idonee per oggi, al giorno d'oggi, insomma, è una cosa che in qualche maniera riaccende un po' il gusto, insomma, di andare un po' a riscavare, e soprattutto ci allontana un po' dalla monotonia, che poi alla fine sì, è vero, stanno uscendo giochi spettacolari, bellissimi esteticamente, tecnicamente, anche divertenti a giocare, però è vero pure che purtroppo l'omologazione economica, l'indispensabile omologazione economica anche per certi versi, purtroppo alla fine sta portando un po' di stanchezza, no? Nel senso, poca riproposizione di idee buone, nuove, e molto reiterare, insomma, concetti che vanno. Sì, ma è un presupposto della modernità, io lo dico sempre, cioè la mancanza, l'uccisione della personalità, e quindi, come dicevi tu, dello stile in grande. Adesso si conta sulle dita della mano i giochi che hanno quello stile forte, marcato, che ti fa dire guarda che personalità, guarda che voglia che ho di perdermi in questa realtà. Se ci fate caso, nel 2012 le nuove proprietà intellettuali si contano sulle dita di una mano. Cioè, questo non per criticare il mondo videoludico, ma il mercato, come ha piegato le sue esigenze, quelle che sono le, la voglia di azzardare, di investire delle software house. Ha ragione, dico io, perché non è bello suicidarsi. È colpa del fine del ciclo delle console, questo. Cioè, non è conveniente economicamente parlando, purtroppo. Ma sì, guarda, anche se le console dovessero durare altri 2 o 3 anni prima delle nuove, comunque si sta molto attenti oggi, si va con piedi di piombo. Se tu metti una produzione colossale di svariati milioni di euro in un mercato che comunque ha dei gusti, che ha personalità, sono a livello bassi. Ora non spero che non ne vogliano i vari coders che ci ascoltano, altri, però non sono giochi che hanno una personalità veramente molto, molto a livello terra-terra, cioè è legata a una spettacolarizzazione cinematografica e finisce lì. Cioè, sanno già cosa aspettarsi, vogliono quello, lo scelgono a muso duro e non compreranno mai un Dishonored. Sto facendo un esempio. Perché questo? Perché ovviamente Dishonored ha un altro tipo di impegno anche intellettuale, di approccio al videogioco, che è scomodo perché non sono, non dico hardcore gamer, perché ci sono anche tantissimi coders che sono hardcore gamer, per carità, però secondo me io penso che è l'approccio al videogioco che è cambiato, perché c'è gente che è cresciuta con un modo di intendere il videogioco che è diverso. Non lo voglio valutare, ma è diverso, e crescere con un videogioco, con un modo di intendere il videogioco che è diverso da come lo intendiamo noi, che abbiamo una certa età o un'età certa, come sempre mio padre e questo qua ti porta a ridefinire totalmente il mercato. E quindi io dico questo, ma che vengano le produzioni indipendenti, che vengano i progetti autofinanziati, che i vari Kickstarter o altro, che venga la cultura digitale, però sicuramente c'è, difficilmente riverrà una BioWare così come la conoscevamo, o un Metal Gear dei primi tempi, o un Resident Evil dei primi tempi. Non c'è, non più spazio, so, per questa cosa. Io voglio essere fiducioso, ma non lo so davvero. Voglio essere. In conclusione, chiedo al Distruggitorte ultimo commento, quindi, su questa. Beh, innanzitutto vi dico cosa mi aspetto dal terzo. Yes. Fondamentalmente dal terzo mi aspetto una trama degna, quindi una trama ben fatta, che tutto sommato alla fine ci sono sempre state. Una continua, diciamo, limitazione delle features come nel secondo, perché poi alla fine c'è troppa casualizzazione nel gioco, non penso che si ritorni dietro a complicare la vita ai giocatori, anzi si tenderà a renderlo sempre più facile. E poi comunque penso che faranno un po' meglio tutto quello che è il comparto tecnico, quindi per quanto riguarda scenari, dungeon e via dicendo, saranno sicuramente più curati, perché sennò a questo punto mi sa che gli arrivano davvero con i furgoni e le torce sotto casa, giustamente gli danno fuoco. Per quanto riguarda invece il futuro di Biver, non lo so se lo chiudono, non so che dirvi, può darsi di sì. Diciamo che la EA potrebbe andare a pensare, giustamente, cioè, se devo fare giochi di merda alla BioWare, mi faccio quella mente da me, perché metterci il marchio BioWare? Ci metto direttamente solo il mio, insomma. Potrebbe anche essere questa una possibilità. Anche bene, allora direi che possiamo concludere quindi la parte che riguarda la discussione e passare ai commenti dal web. Ok, allora come al solito, dietrologia videoludica, insomma, noi approcciamo questi discorsi molto impegnativi, molto interessanti e sicuramente molto lunghi, e visto e considerato, insomma, che ci siamo un po' ripromessi con questa queste nuove puntate, insomma, di rientrare almeno entro le 2 ore e un quarto, andiamo, insomma, a chiudere l'episodio, poi magari nei saluti finali, se poi vogliamo fare un commentino finale, lo possiamo tranquillamente fare. Noi, come vi abbiamo detto all'inizio di di trasmissione. Nel sito stiamo appunto pubblicando una serie di articoli. Ringraziamo intanto Giuseppe Saso, che è qui presente, ringraziamo Stefano, ringraziamo Marco, ringraziamo me, ringraziamo anche le persone che non fanno parte della trasmissione. Ringraziamo a me, come... molto bello, è bellissimo, infatti. Persone che non fanno parte della trasmissione, come Simone Andreozzi. Simone cognome Andreozzi, insomma, e altre persone che comunque, e Nino Nicita ovviamente, che ci stanno dando una mano, perché vogliamo far crescere appunto il sito in quantità di articoli, magari piano piano gli daremo anche una struttura dal punto di vista editoriale. Se poi qualcuno, insomma, che è avvezzo a scrivere dei videogiochi, che vuole esprimere una critica, un software house, anche sì, no, ma videogiochi nel senso generale, ma non a fare recensioni, ma vuole esprimere comunque le critiche per come è il modo di fare magari critica, insomma, se hanno capito lo spirito di dietrologia, insomma, noi siamo ben contenti, insomma, se qualcuno ci vuole dare una mano, perché quello che ci piacerebbe è pubblicare articoli ogni tot giorni, insomma, magari sarebbe la cosa bella, sarebbe avere un articolo una volta al giorno, ma insomma è una cosa abbastanza, per adesso siamo un articolo ogni 4 giorni circa, cioè, ogni 4 giorni circa, possiamo farcela, dai. Però quello che vediamo è che dal sito di dietrologia videoludica e soprattutto anche grazie al podcast, ma non solo grazie al podcast, perché ho visto che poi Luigi Marrone ha commentato, ha fatto anche un bel commento sull'articolo di Roberto Bertoni, quello di recensire o non recensire, questo è il problema, insomma, si cominciano a creare un po' di movimenti, un po' di dibattito, insomma, questa è un po' la cosa che ci fa piacere, giusto Stefano? Decisamente, non siamo a senso unico, anzi è fondamentale il avere un feedback, avere una risposta, intavolare una discussione, anche se non in maniera diretta ma asincrona, uso un termine che va molto di moda ultimamente tra i giochi, soprattutto quelli per iOS. Ne approfittiamo anche per ringraziare Mario Morandi, che ha contribuito per quanto riguarda la parte grafica di dietro del sito di dietrologia videoludica, e anch'io rinnovo quello che ha detto Simone per quanto riguarda appunto la vostra volontà, nel caso voleste collaborare con noi. Noi siamo sempre disponibili ed è sempre un piacere avere tante persone con cui poter collaborare, con cui avere a che fare. Poi per quanto riguarda i commenti e le mail, vista la durata, ci troviamo un po' nella situazione di dover tagliare in parte questi interventi. Io vi consiglio di andarli direttamente a leggere, su dietrologiavideoludica.it, perché ci sono due commenti piuttosto corposi ma estremamente interessanti, che andrebbero letti per intero, ma sinceramente mi sembra che non sia possibile in questa sede. Che ci vogliono 45 minuti a... Sì, poi li commentiamo anche, mettiamo altri 45, insomma, non finisce più, conviene direttamente che li leggiate. Sono in questo caso quello di Morgan, per quanto riguarda il terzo episodio, quindi per un pugno di voti, The Ruler, che è appunto anche lui... È uguale, in realtà c'è stato un interscambio, un botta risposta tra The Ruler e Morgan proprio sull'episodio 3. Insomma, io vi suggerisco di leggerlo, perché veramente poi ognuno approfondiva a modo proprio. Insomma, anche il distruggitore ha partecipato a questa discussione. Ovviamente immaginate in che maniera, insomma, intelligente e interessante possa averlo fatto. Soprattutto a Tom, e poi anche appunto il commento di Luigi. Tagliamo barbaramente Luigi, anche secondo me. Per quanto riguarda, come stava dicendo Simone, l'articolo di Roberto Bertoni sul recensire o non recensire, anche qui consiglio, sono proprio dei commenti a quell'articolo, quindi sono come dire, è comodo, è importante leggere l'articolo e poi leggere i commenti in modo da avere un'idea precisa. Forse leggere solo i commenti sarebbe riduttivo nel senso generale del discorso, ecco. No, l'unica cosa è che possiamo aggiungere, scusami Stefano, è che se però ovviamente, come è successo magari fino alle puntate precedenti, se comunque un utente vuole comunque fare un commento specifico, quindi magari chiedere un approfondimento, fare una critica, magari ce lo scrive o sia sul, come commento sull'articolo ovviamente relativo alla puntata, o ce lo manda anche per mail. E ovviamente se è sintetico, noi abbiamo il piacere, insomma, di leggerli, come abbiamo fatto fino alla puntata scorsa. scorsa, ma veramente i commenti che si sono scatenati durante queste due o tre settimane sono immondi, sono bellissimi da leggere, ma sono impossibili ovviamente da riportare. Anzi, in trasmissione. Faccio un articolo, no? Ecco, bravo. Dai, faccio ragione. Un articolo, hai fatto, Marco, fatto una risposta che se andava bene l'articolo. Dai. Visto che The Ruler poi non è uno che ce la sa, insomma, se poi vuoi partecipare, noi Rullo sai insomma che siamo qua a disposizione. Bene, quindi appunto rinnovo la totale tombale lettura di articolo più commento e un altro eventuale articolo, se avete chiaramente, meno che non abbiate qualche commento più sintetico da sottoporci. Questo per quanto riguarda il sito. Invece, per quanto riguarda la pagina di Facebook, ci scrive Nino, che poi è anche diventato un nostro collaboratore, e qui invece parla del come dire, del fatto che lui non è un giocatore hardcore, ma più un casual gamer, ma si ritrova interessato, diciamo, a quanto riguarda quello che può essere il tutti i giochi che sono il free to play, indie, cloud gaming, insomma quelle che sono le nuove tecnologie su cui si stanno spostando lentamente le varie case produttrici, sia per una questione economica che per una questione di comodità nell'organizzazione, oppure per una questione di volontà personale, come nel caso dei giochi indie. Quindi lui pone la questione del fatto che queste cose vengono messe in un'ottica negativa, queste nuove modalità, e quindi si chiede se la comunità dei videogiocatori, di gamer, è conservatrice, quindi se tende a mantenere un certo controllo sulla situazione, sul fatto che non voglia cambiare, non voglia avere un'evoluzione, cosa che va un po' in disaccordo, notevolmente anzi in disaccordo, con quello che invece è il mondo dei videogiochi, che tende sempre a evolversi in ogni suo aspetto grafico, gameplay e così via, dei controlli, insomma in ogni sua forma. Quindi si chiede, ma com'è che queste cose vengono bistrattate, mentre invece dovremmo essere noi giocatori essere i primi a spingere verso la novità, verso le nuove scoperte. Quindi questo per quanto riguarda da Facebook, Nino. Chi può dirlo? Perché ricordiamo una cosa. Ricordiamo, aspetta, che la nostra trasmissione non dà risposte, ma solo altre domande. Questo è sempre come Voyager. Noi siamo i Voyager videoludici. I Voyager, mi sfugge un attimo il gioco. I Giacobbi. Ma in realtà io dico a Nino, senza poi ovviamente andare ad approfondire, ovviamente non a parte è che ne parleremo probabilmente in una puntata, che infatti noi poi, ecco, questi spunti che arrivano anche tramite la pagina Facebook, che anche quella ho visto ultimamente particolarmente attiva, poi è cresciuta veramente tanto, ovviamente questi spunti noi non è che li prendiamo e li cassiamo, perché noi abbiamo già un elenco di puntate pronte qui 2016. Esatto. quindi insomma in realtà quello che stiamo facendo è accumulare argomenti, poi ovviamente un po' alcuni li selezioneremo, alcuni purtroppo diventano vecchi prima di arrivarci, altri li stiamo approfondendo già, insomma c'è già una puntata in lavorazione, insomma, di etologia videoludica. Quindi poi considerate che se aspettiamo troppo andranno in archeologia videoludica. Esatto, ma quindi tranquilli, in qualche modo li ricicliamo. Esatto. Vabbè, comunque poi sappiamo che su Google Plus, insomma, non succede un meme. Su Google Plus gli stessi commenti dell'altra volta. No, c'è un commento che fa un altro che fa e c'è neanche un altro che fa però, sono i suoni di Batman degli anni 60. Anche più, c'è anche se più. Ma quindi sì, vedo questo utente. Simone, sto pensando, visto la diatriba che c'è tra fantasy e fantascienza, e visto il mio ovviamente orientamento verso la seconda, perché non facciamo un podcast chiamato Futurologia Videoludica? Ma no, dai. Cioè, parliamo di cose che devono ancora uscire. Tu lo sai, Luigi, che tu ti riporti queste cose, e ci fai paura anche. No, no, e che in realtà lui si magari le fa, quello è il problema. Esatto, capito? Che lui magari ci scherza. Questo poi ci fa paura. Poi però domani mattina gli arriva la mail dicendo: allora ragazzi, questo è il login. È il login per accedere al gruppo di lavoro. Io ci sto, immagino, potete parlare di Dragon Age 5. Che cosa vorresti? Questi saranno i giochi di domani. Sarebbe bello, però. Magari ci facciamo una puntata. Ci facciamo una puntata, direi. profezie insomma. Potrebbe essere uno spunto, dai, ragazzi, essere uno spunto per la puntata. Noi siamo ormai assimilati, anche a livello inconscio abbiamo assimilato tutto quello che sarà anche il futuro del videogioco, solo che non sappiamo di saperlo. Se invece ci incontriamo e creiamo quella scintilla in cui tra il serio e il faceto buttiamo giù quello che ci viene in mente, sai quante intuizioni ci stanno? Ma tu lo sai che mi trovi non d'accordo anche di più, cioè, anche perché poi in realtà sia il dialogo che la sperimentazione sono parti integranti del mio genoma, quindi siamo dei gamer perfetto. Dormienti, come gli agenti dormienti che ricevono la telefonata e sanno già cosa devono fare, più o meno, esatto, quindi noi attivano, abbiamo all'interno quello. Luigi, stai attento perché io ho scherzato parlando di retrologia videoludica per un anno con Pizzi e un giorno mi è spuntato fuori retrologia videoludica, sì. Quindi quindi stai molto attento perché sai qual è il problema, che gli altri dicono le cose a me, dice ah sai sarebbe carino così e io poi dopo rompo il cazzo, dopo devo fare questa cosa, mi sto mangiando le mani, vabbè, già il episodio, guarda, tipo, bocca mia, devo stare zitto. Guarda in che guaio mi sono infilato. Ritrovati tutti ignari nella prima puntata di archeologia di dietrologia videologica, è stato bellissimo perché poi in realtà nessuno era perfettamente consapevole di quello che stavamo veramente facendo. In realtà poi alla fine insomma questo programma sta venendo bene perché secondo me ha trovato delle affinità in generale. Piano piano. Posso dire una cosa poi... anche nei confronti di Giuseppe, ma non solo di Giuseppe, vai. Anche di Simone. Simone Cognome Andreozzi che mi piacerebbe il fatto che loro non soltanto a livello testuale, mi piacerebbe veramente che piano piano col tempo insomma si integrassero all'interno del programma, perché sono a parte due persone con i quali io mi trovo bene e questa è la cosa primaria. E poi sì, comunque, cioè nel senso, comunque parlare con loro di temi in maniera garbata, in maniera tranquilla, anche rilassata. Che significa che noi diciamo parolacce? Che cazzo? È un po' tu, un po' le dici vaffanculo le parolacce. Che cazzo dici? No, comunque basta. È sul serio, è vero, cioè nel senso è il anche il non essere d'accordo non è perché io, sai quante podcast sento, ma che dici? No, invece qui veramente si è creato questa specie di micro universo, mi piacerebbe insomma che tutti facessero parte, che tutti sentissero che siamo noiosi, no, che tutti sentissero la nostra trasmissione parte, esatto. Insomma tutti facessero parte insomma, ma anche lo stesso Morgan che praticamente oramai ci scrive tutti i giorni insomma chiedendo informazioni, come stiamo, come sta andando, come non sta andando, roba del genere, cioè per noi è un piacere che si crea veramente questo microcosmo insomma, e poi se il pubblico lo apprezza perché quindi vede che in qualche maniera lo stiamo facendo con passione, ragazzi, cioè poi se Luigi Marrone mi dice facciamo un podcast fantascienza contro fantasy, cioè io già sto là, capito, cioè nel senso anche perché poi io non sono né da una parte né dall'altra, a me li adoro entrambi, no? Quindi cioè nel senso è chiaro che per motivi affettivi personali da bambino sono più legato a un certo tipo di fantasy, ma allo stesso tempo sono molto più legato anche ad altro tipo di fantascienza, quindi non c'ho veramente. A proposito di fantascienza, vogliamo annunciare l'allegato. È vero, è vero, scusate, c'è allegato a questo episodio. Pensate. Microfumetto. Pure qua. Perché abbiamo provato a piazzarli dappertutto i microfumetti del distruggitore. Però questo è il nuovo di zecca. Si intitola Space Junk. C'è come? Crisi nella galassia. Questo è il titolo della puntata, che c'è crisi nella galassia. Certo. C'è crisi nella galassia. Quindi... è ovviamente fantascienza trash. Sono solo le prime 8 tavole di 24. È il primo capitolo del primo episodio, insomma, poi lo apprezzo. Il primo capolavoro, certo. Possiamo già definire, però sì, un capolavoro annunciato. Capolavoro, perché insomma è fatto da un fumettista come il distruggitore, poi immaginate che può uscire fuori. Ovviamente lo faccio per lavoro io questo. Va bene, facciamo un giro di saluti, iniziamo da Giuseppe. Un bel giro di saluti, cioè saluti, un commento allora, finale. Niente, una buona nottata. Ah, prima di tutto, scusa. E ci risentiremo presto. Leggete soprattutto l'articolo che è uscito oggi, per voi sarà ovviamente già da qualche giorno, e continuate insomma a seguirmi, soprattutto sulle pagine di Dietrologia Videoludica e quando sarà nelle prossime puntate, ma anche insomma nel mio microblog aggregatore, insomma, dove praticamente indico i vari articoli per le realtà con le quali collaboro. Il link è l'URL vitaingioco.tumblr.com. Tra parentesi, oggi ho cambiato pure il tema grafico, quindi potete andarlo a guardare subito in anteprima. Vabbè, tanto poi lo metteremo anche insomma. Sì, sì. Lo metteremo ovviamente nelle note dell'episodio. Luigi, io ringrazio tutti gli ascoltatori e gli appassionati anche di Dragon Age. Mi scuso se questa puntata non ero la persona più indicata per poterne parlare, ma non volevo privarmi del privilegio di poter ascoltare chi ne sapeva parlare e chi ne sapeva ovviamente molto più di me. E quindi saluto e ringrazio, oltre agli ascoltatori, anche voi appassionati di Dragon Age che avete registrato oggi, ovvero vabbè, Simone, il distruggitore, Stefano e Giuseppe. Stefano, anche a voi. Ma hai sentito Luigi Marrone col microfono, l'equalizzazione? Cioè, è radio proprio, cioè, da paura. Io mi stavo risentendo. Io quando l'altra puntata ho detto, com'era, hai paura di morire? Sì, com'era? Sì, era abbastanza. Esatto, bravo. Cioè, è nato per fare questo, Luigi Marrone. Per fare domande per dire che paura, che paura della domanda. Quindi. Bene, quindi Marco. Io saluto tutti quanti, non ho un sito internet, se mi volete trovare su Facebook cercate il distruggitore, ho un nome strano. No, c'è su fumetto. Facebook se scrivi il distruggitore non ti trova proprio nessuno. Cazzo, no, mi trova perché ce l'ho messo come nickname. Ah sì? Certo, certo. Quindi mi possono trovare. E c'è la copertina del fumetto come icona, quindi lo vedrete subito. E comunque se cercate Marco Gualdi non lo trovate. Non lo troverete mai. Ma non mica detto, perché alla fine tutto sommato mi sa che in qualche modo possiamo provare adesso in tempo reale. Mentre Stefano saluta, scrivo la polizia postale, vedo se ti conosco, vediamo così. No, va bene, io saluto rapidamente, ringrazio voi, ringrazio chi ci ascolta, insomma, per la possibilità di partecipare, di co-condurre e così via. Ne approfitto per dire che la saga di Shannara è per omosessuali. Ciao.